L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and guns and è tornato a colpire, amico mio, è tornato a colpire in queste ore il tuo politico preferito, caro Parenzo. Il tuo politico preferito. L'europarlamentare della Lega Nord. No, sì, non sì, è sì, europarlamentare. Sì, sì. Come no? Europarlamentare, eletto a furor di popolo. L'euro circense, signor Cruciani, le ha sbagliato. L'euro circense. No. Europarlamentare della Lega Nord, Gianluca Bonanno, il quale si è fatto ospitare da Radio Padania. Sì, beh, era difficile. Dai nostri amici di Radio Padania. Beh, per dire che cosa? Sai che c'è questa crisi tra Italia e India per i Marò? Come no? Crisi. In realtà non c'è nessuna crisi, insomma, ci sono i Marò lì da 2 anni e mezzo. E la signora Pinotti è andata lì per cercare di con un specialista, perché quello si è sentito male. La figlia di uno dei due si è incazzata come una bestia su Facebook, dicendo che l'Italia è un paese di merda, che l'Italia è un paese che fa schifo, che prendiamo gli immigrati, li portiamo qua, e invece il padre resta in India. In questo quadro, in questo di estrema tensione, cosa fa il signor Buonanno? Secondo te cosa si è potuto inventare dal suo cilindro? Beh, ho già letto tutte queste hai letto, come hai letto, no? Hai letto, ho visto, tutto, mi sono inorridito, a differenza tua, mi sono inorridito. Ma io mi sono messo a ridere, vorrei è un che genio, qualcuno è un genio. Però farlo ascoltare, forse c'è qualche file audio, come dite voi tecnici della radio, ma qualche file sì, audio. C'è qualche piccolo c'è qualche piccolo frammento. Parole degne di pura immondizia. Immondizia, puro razzismo. Cioè, tu vorresti denunciarlo? Schifoso. Vorresti io vorrei che qualcuno, io non ho tempo e ne voglia, ma di andare tutte le volte in questura. Però stai a fare dicendo a chi ci ascolta, ai puristi, ai buonisti, a quelli io che invito, hanno tempo da perdere. Ci sarà un giudice in quel del Piemonte, in quel di Varallo Sesia, che ascoltate e udite le parole pronunziate in quel posto, in quel bagno che si chiama Radio Padania, in quel bagno. Guarda che viene ospite anche qua. Il bagno è un posto nobile, però quel bagno che si chiama Radio Padania ha aperto la bocca e ha lasciato uscire fiumi di odio. Ha detto addirittura che gli indiani che sono lì nella sua città e che sostengono sentiamo. Ci sono 23 Bravo. Indiani alla Borgo Sesia, dove Poverini. È sindaco. Lui vorrebbe togliere il sostegno del comune, a chi ce l'ha ovviamente il sostegno del comune, cioè i sussidi eccetera eccetera, finché non firmano un foglio in cui esprimono Follia. In cui dicono che i Marò devono tornare in Italia. Buon anno. Gente che viene in comune a chiedere aiuto ce ne sono parecchi, e ovviamente ci sono anche talvolta gli indiani. Allora gli indiani, si dice che rispondo: tu sei d'accordo che i Marò vengono a casa? Sì, bene, allora firma sto foglio e io continuo a cercare di esserti vicino. Tu sei d'accordo col tuo governo che i Marò devono rimanere lì bloccati, come succede ormai da un paio d'anni? Beh, allora non chiederci aiuti e vai per la tua strada, che noi andiamo per la nostra. Cioè devono venire sostanzialmente gli indiani a baciare la pantofola, capito? Siamo alle deiezioni dialettiche. Dai, smetti, la sua. Pure dei, detto in modo fine, però. Cioè, lui dice: gli indiani che stanno lì devono fare una. Se vuoi i soldi del comune. Ma possiamo dire che è una follia. Se vuoi i soldi per comune, per campare, eccetera, cioè i soldi del comune, devi andare lì, firmare una carta in cui ma dici. Ma perché? Solo perché sono indiani. Marò liberi. Ma solo perché sono indiani. Stai a casa tua. Ma ti rendi conto della stupidaggine di questa cosa? Cioè, e se un italiano sostiene il governo indiano invece ed è contro i marò? Quello niente, quello è italiano. Ah, perché è italiano. Senti quest'altra cosa, senti. È inutile fare tante parole. Sono più di 2 anni che questi due dei nostri soldati sono in India. E il governo indiano ci ha preso per i fondelli talmente tante volte. Eravamo riusciti a portarli in Italia. Siamo stati talmente affetti di rimandarli in India. Quello che ha detto ieri la figlia del soldato che ha avuto un'ischemia è quello che penso anch'io, cioè un'Italia di merda. E poi insieme a Barin dicono occhio per occhio, dente per dente con l'India. Borgo Sesia, il sindaco blocca gli aiuti comunali socioassistenziali agli indiani che non sottoscrivono una dichiarazione a favore della liberazione dei marò italiani. Dico, ma ti vuoi proprio ribellare al gelato di Renzi? Non lecchi! Hai ragione, però qui se non davvero non alziamo la voce, occhio per occhio, dente per dente, se tutti i sindaci facessero come faccio io. Devo dire la verità, però. Più che legge non del taglione, mi pare la legge, no, del coglione. Del coglione, no? Dici. Non ti sei. però adesso diciamo la verità. Quando è venuto in questi studi a Roma, anzi, Antonio Pennacchi, guru della sinistra, cioè guru della sinistra, forse è esagerato, scrittore di sinistra, sì, comunista, quello che vuoi, a dire che bisognava rapire gli indiani, rapire imprenditori indiani in Italia per costringere l'India a riportare indietro i marò, non ti sei scandalizzato? Come no, gli ho detto, non gli hai dato l'audio del coglione. Gli ho detto non che hai dato, ma rimanda coglione l'audio, come no? Ho detto che era una follia assoluta. Ma no, rimanda l'audio di quel giorno, ricordo perfettamente. Ma scusa, ma figurati. Addirittura Alda De Usanio, la mitica Aldona De Usanio, da noi ieri qui alla Zanzara, cosa ha detto? Che l'India non è il paese del Nirvana perché stuprano le bambine, le donne, la gente è poverissima, ci sono i super ricchi e i super poveri e bisogna andarci a riprendere i marò con i Mossad. Io su questo sono d'accordo, però se sì, siamo un paese con i coglioni, se pensiamo che i marò siano ingiustamente detenuti in India, bisogna a un certo punto dice basta, ne abbiamo pieni i coglioni, andiamoceli a prendere con i servizi segreti, con le operazioni militari, dice la De Usanio, oppure con il Manzi, no, con i nostri no perché non sono capaci, il Mossad. Io chiamerei il Mossad perché l'esercito italiano non è capace neanche quello. Chiamerei un ottimo servizio segreto come il Mossad e me li riporterei a casa. Però, caro Parenzo, è tornato da poco da una mega visita in Estremo Oriente. Aia! In Estremo Oriente. Aia. In Estremo Oriente. Era il capo delle delegazioni. Non avere la puzza sotto il naso, no, non fare lo snob. Siamo solo al secondo giorno. Non fare lo snob. È stata una missione molto importante. Ha portato un sacco di imprenditori. Non lo dico con un sacco di imprenditori italiani lì. Un sacco di imprenditori italiani lì. Perché c'è bisogno di investire anche in altri paesi. Siamo in crisi, eccetera, eccetera. E c'erano diversi politici. Ho qua tutta la lista dei politici che c'erano. Forse alcuni si sono tirati indietro, non lo so. Ma a capitanare questa delegazione che è stata ricevuta dalle massime autorità. A fare cosa? Capitanare, a guidare questa delegazione. Sì. Che, ripeto, è stata ricevuta dalle massime autorità di un paese, tranne il capo supremo, perché è inavvicinabile, il maresciallo. Sai che si chiama il maresciallo, no? Si chiama maresciallo. Kim Jong-un, detto il maresciallo. Il maresciallo? Lo so, adesso ce lo spiegherà lui che sa tutto. Antonio Razzi, buonasera! Buonasera a voi tutti e tutti i radioascoltatori. Come andiamo? Ma si è fatto un sonnellino oggi per il jet lag, no? Guarda, dimmi, te lo dico in parole abruzzese, d'amico sempre. Sì. Sting stang. Com'è in abruzzese? Com'è, scusi? Sting stang. Sono stanco. Sting stang da morire. Lo so, sono fatiche. Quante ore di volo sono? Anche perché siccome nell'età di Parenzo, allora beato Parenzo che lui è giovane, ma io purtroppo ho l'età e allora. Ma c'è stato oggi, ha riabbracciato sua moglie oggi quando è arrivata a casa. Come no, ormai era da molti giorni che non ci vedevamo. Allora, beh, allora stasera si fa bisboccia, stasera non ce la faccio a fa niente. Piatto di pasta a letto. Vabbè, è normale, Antò. È assolutamente normale. Sai che Parenzo mi ha accusato di avere fatto. Di avere fatto una piccola parte delle mie vacanze con te, ha detto: ma com'è? No, con tutte le cose che ci sono da fare, ma abbiamo passato due giorni meravigliosi. Due giorni addirittura? Ma certo, una sera, un giorno a pranzo, ho mangiati, ma è tipo Papa Razzi. Ma cosa si fa due giorni con Razzi? No, ma no, due giorni. Ma Parenzo pure se l'è fatta una giornata con me. Sì, no, fa tanto. Io feci un collegamento per la 7, passammo una serata a cena insieme dopo aver lavorato. Ma voglio dire, poi andare come ha fatto Cruciani scientificamente in vacanza con Razzi. No, questo che no, che c'entra scientificamente? Mica siamo parenti, ci siamo trovati a pescare perché abbiamo passato una splendida cena in quel posto dove fanno sagna e fagioli, Melograno, vicino a Chieti, vicino a Pescara. E poi siamo andati un giorno, il giorno dopo, ma è omaggiato, ma è tipo un papa, passa. Là la gente lo omaggia, autografi, fotografie, ma una popolarità assoluta. Ma guarda, anche in Cina. No, pure in Cina, come in Cina, non è che ti riconoscevano. C'è Piazza Tiananmen, la città proibita, la Grande Muraglia. Che succedeva a Piazza Tiananmen? Fotografie di qua, fotografie di là, l'aeroporto di Pechino. Ma io sono uno, tu mi conosci, voi mi conoscete, sì. Sono uno semplice, uno alla mano, io non mi sono assolutamente, eppure ci sono questi fans che vogliono fare fotografie, ecco, non so cosa ci fanno queste fotografie, però vabbè, le mettono su internet, cioè tu stai dicendo che alla Grande Muraglia, Piazza Tiananmen, all'aeroporto di Pechino, ogni italiano che c'è, foto con Razzi. Che bello, siamo a Pechino, io ho incontrato il senatore Nazzi. Pensa a te. Ma sempre che fate sei all'otto, io non lo so. Come all'otto? Comunque, anche ha vinto all'otto, dici. Anche ha vinto all'otto, per me è anche una bella soddisfazione avere questi che te lo chiedono col sorriso, che te lo chiedono con amore, ma purtroppo ci sono anche quelli invidiosi. Vabbè, ogni tanto me la gratto perché purtroppo. Cioè, ti tocchi. Perché ci sono quelli che dopo, se io vado a leggere su Facebook. Vabbè, quello non c'è andare, non leggere le cose. Non leggere. Ma io non lo leggo perché non me ne frega niente. Io sono quello che sono, la gente mi conosce, voi mi conoscete dalla radio, io sono uno alla mano. Non c'ho una lira, ma perché se avesse molti soldi lo darei a tutti quelli che sono infelici, a tutti quelli che non c'erano. Ma come non c'è una lira? Beh, c'è una casa a Pescara, c'è tutto, c'è un mutuo. Ma non ho la possibilità di fare beneficenza a tutti. Certo, pure quelli che dicono che si è fatto che sta con Berlusconi per il mutuo, una cosa pazzesca. Me lo sto pagando io, altri che beh, sì, grazie. C'è una rata fortissima del mutuo, tra l'altro, ma l'ha raccontato Razzi. C'è una rata, scade a dicembre questo mutuo. Ma non è un problema degli italiani, Hanno la rata del mutuo? Ma una rata enorme, però. 2000 euro di rata, una cosa pazzesca. Ho capito, ma quanti italiani hanno la rata del mutuo? Certo. Scusa adesso. Ma tutti ce l'hanno, capito? Adesso non è che Razzi è un problema nazionale, scusa. No, è un pensiero, io penso che molte volte fa anche bene, perché c'è un pensiero che uno si deve togliere dalla vita, è quello del mutuo. Tutti, a dicembre ti togli questo pensiero. Io so che mi ricordo Totò, una battuta di Totò. Che diceva? Diceva sempre che voleva fare 13. Sì. Però alla fine dice: io non lo voglio fare perché sennò altrimenti non aspetto mai la domenica. Allora così aspetta sempre, ogni volta c'è l'ansia finché arriva la domenica. Poi se poi faccio 13, divento milionario, la domenica non arriva mai più. Allora mi spiego? No, non si è capito. Non tanto, non si importa. Beh, vabbè, insomma. Io l'ho detto. Che vuol dire che tu aspetti dicembre come fosse la domenica, dici te. Bravo, diceva, adesso aspetto che mi posso levare questa angoscia del mutuo. Questo peso. Ah no, 4.000 euro è il mutuo, tutto, ma hai detto 4.000 euro è il mutuo, no? Perfetto. 4.000 euro di mutuo al mese, ma come ti è venuto in mente? Ma è un peso per tutte le famiglie. No, oddio, 4.000 euro, perché che casa è? Perché l'ho voluto pagare quando prima. Ah, in breve tempo, sì, breve tempo. Perché se succede qualcosa, dici, se cade il governo, se non sono più deputato. No, ma se crepo io. Ah, crepi te. Crepo io. Vai, crepi, adesso perché devi crepare, scusa. Tocca gratta. Ai miei figli, a mia moglie. E io ai figli non gli voglio lasciare il debito, se no poi dice: ha ereditato la casa. quelli dici cazzo, altro che eredità. No, però l'hai fatto breve, mi hai lasciato da pagare. Mi hai lasciato da pagare, però tu l'hai fatto anche per così, perché no, più corto sapendo è che... più corto è, così stai in Parlamento e riesci a pagarlo, giustamente. Beh, no? Spero che sia così. Allora, traffico, torniamo subito perché dobbiamo raccontare la Corea del Nord di Razzi e Salvini, a tra poco. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. Amico mio, lì te lo dico da amico, gattaci cova lì. Allora, però chiariamo subito una cosa, caro Antonio. Allora, sì. La cosa è molto semplice. Qui qualcuno dice, questi qui, una missione con imprenditori, politici vari. A proposito, c'era pure quello dei 5 Stelle? È venuto? Sì. Castaldi, sì, dunque i 5 Stelle quando dicono Razzi, non deve che rompere i coglioni. Uno dei 5 Stelle che si chiama Castaldi, giusto? Sì. È venuto in missione con Razzi. In bravo ragazzo, ci mancherebbe altro. Sono dico... tanti bravi ragazzi. Poi quelli di Sell, c'erano pure quelli di Sell? Come no, ce n'erano due. Due, ma come mai sono venuti questi di Sell? Perché sono amici comunisti, dici. Se non capiscono loro che voleva capire, insomma, beh, loro diciamo sono più professionisti di me che capiscono i comunisti. I comunisti. Diciamo, certo, poi ci sono due della Lega. Due della Lega. Non sono più comunisti. Due della Lega, regime. Giusto? No, della Lega tre. Tre a Salvini, anche. Borghesi e Grimoldi, giusto. Bravo. E poi c'è una pure del PD, pure il PD, allora che fa ironie su Razzi. Non devono rompere. È venuta questa Vennitelli? Sì, come no? Come col no, marito pure. Col marito. Sì. Vabbè, se lo sarà pagato il viaggio. Tutti se l'hanno pagato. Ah, ecco appunto. Ma la Boldrini, vi ha pagato il viaggio la Boldrini? Una parola, quello vengaccia una lira. No. Beh, l'ho fatto bene. Tutti per un... pagati da noi. Ma perché non me l'ha la Boldrini? Perché non me l'ha voluto pagare, scusa? Ma è una dittatura. Ah, questo glielo dobbiamo chiedere. Ma tu gli avevi chiesto prima? Come no, è stato chiesto e non risulta assolutamente, né dalla Camera né del Senato. Niente. Meno male. Cioè, però siccome noi l'avevamo programmato, sì, perché c'è stato un invito ufficiale a insaputa della Boldrini, però. Ah no, ma noi gliel'abbiamo detto, guarda, abbiamo ricevuto questo invito per la, essendo io presidente della bilaterale di amicizia della UIP, Unione Interparlamentare. Bilaterale, sì. Allora sono tutte le nazioni, l'Italia. Cioè, ma l'invito te lo sei fatto da solo, però. Cioè, No, l'hanno fatto questi della Corea del Nord. Non è che lo faccio io l'invito. No, scusa. Per carità. Tramite l'ambasciatore mi ha mandato questo invito. E la Boldrini, voi avete chiesto i soldi alla Boldrini per l'organizzazione e vi ha detto di no. No, ha detto assolutamente no. E fatto bene? Io ma perché ha fatto bene? Scusa, ha fatto benissimo. Che cosa va? Una gita in una dittatura? Ai miei, a me non è una gita, è lavoro, perché noi siamo in vacanza. Ma quella è io una domani, dittatura, domani, Antonio Razzi. Scusami se te lo dico, caro domani, Razzi mio, scusa. Ma ci sono i cosi? È una dittatura, c'è un signore che si fa chiamare maresciallo, capo supremo. Ho capito, ma ci sono i tedeschi che investono lì, c'è l'ambasciata tedesca, ci sono pure gli altri che vanno. Guarda, vi racconto una cosa in esclusiva, che non lo sa nessuno. Raccontaci una cosa. Non lo sa nessuno. Raccontaci questa cosa. Lì in Corea, sì, insomma, il nostro cameraman da una TV abruzzese, TV6 Abruzzo, pure la TV abruzzese, che ha girato, ha filmato dove voleva. È chiaro che non va dentro la caserma di Go, però figurati che ha firmato nel 38esimo parallelo a loro. Pam John, quando Pam si arriva John, lì, sì. Che un colonnello che appena mi ha visto mi ha abbracciato perché mi ha riconosciuto, perché ci sono state varie volte. Come ti ha riconosciuto? C'è un colonnello coreano, un colonnello della Corea del Nord, ragazzi, ti ha abbracciato. Ma tutti gli anni ci vado, scusa, è normale che mi conosci. Praticamente, no? Chi è più famoso, il Papa o tu in Corea? In Corea del Nord forse più io. Sei più famoso del Papa in Corea del Nord. almeno io non mi vanterei di essere abbracciato dai gendarmi del regime di questo Kim Jong Un. È un regime o no? Lì non si può filmare. E invece? E la telecamera, i militari appena fuori ha visto la telecamera, dice mettela, e lì batte, la messa in macchina e si uscì. Quando ho visto il colonnello che mi ha salutato, mi Mr. Antonio Razzi, how are you? Quei quattro parole che sono in inglese. Sì. Allora... mi ha detto, ma guarda, colonne, ma che cavolo, io l'ho quasi detto in abruzzese. Sì, come gli detto. Ma qua, ma non si può filmare un po' qua, un qualche film, sì, per far vedere, perché questo lui... E ti ha fatto passare. E ti ha fatto passare. Mi ha detto, ah, oh, yes. Gli ha detto subito a questo ragazzo, sì, Fabio, dice, Fabio, mi pare via la telecamera, che questo ha detto di sì. È andato a prendere la telecamera, l'ha accompagnato fuori il colonnello e ha detto ai soldati, sì, fate pigliare la telecamera a queste e fa filmare. Vabbè, vabbè. Proprio filmato. Classico stand e di diritto questo. La nota, quello che poi... Sì. E quando riguarda che siamo arrivati lì poi, sì, a Pechino. Non mi hanno fatto fare niente. A Piazza Piena a me. Vanno bloccati. È arrivata una squadra di cose, l'ha arrestato. Ci è voluto un 45 minuti. Io ho detto, ma guardano poco, in Corea del Nord, tutto tranquillo. Tu sei, però diciamo la verità, dal tuo ennesimo viaggio hai capito che questo qua è un regime oppure è un paese dove si può andare tranquillamente e si può campare in libertà? Ma personalmente io posso dire che noi andiamo tranquillamente, siamo usciti. Cioè non è un regime pericoloso secondo te? Assolutamente, io lo trovo molto molto all'avanguardia. Ma guarda, adesso è la settima volta, sono sette anni che ci va. Sì. Dal primo anno ad oggi ha cambiato come la notte e il giorno. Cioè, ormai sono... adesso è diventato molto più aperto. Si può fotografare, aspettano i turisti. Ma che roba è? Si può fotografare. Ride. Ma scusa, ma ormai, io ho capito, tu in Corea. Ma cosa vuol dire che ho fatto perché si può fotografare? Ma in Corea, ma che hai portato un sacco di gente, imprenditori, eccetera, pure uno per aprire le scommesse, ho visto. No. Quello io infatti lì ci sono rimasto anche, io pensavo, io dico a mente mio, tipico abruzzese. Ma questo è cazzo di affare, alle scommesse, questo te lo fanno. Tale porza, no? Sì. Invece? Invece sono rimasto sorpreso perché ho avuto un incontro con il presidente dell'associazione degli ospedali, perché questo signore si occupa di cose umanitarie e vuole mandare medicinale a scopo benefico per aiutare quella popolazione. Però ormai tu sei fatto così famoso in Corea che alla fine te faranno? Qualcuno scherzosamente tra parlamentari, colleghi, ma sempre battute, perché abbiamo visto i due mausolei, dice, ma finì che ti fanno un mausoleo qua quando sei morto. Beh, tu mi gratto, spero di non arrivare a quello. Ma non possono fare qualcosa per i marosti coreani, amici tuoi? Cioè, quelli che hanno i militari, a bomba. Guarda, Giuseppe, te lo dico da amico, senza Berlusconi, quelli stanno ancora là. Vabbè, ancora con sto Berlusconi, dai. Solo Berlusconi può Ma che può fare sto Berlusconi ormai? Ma vogliono i fatti e molte persone. Ma scusa, consegnati tu, invece di andare in Corea del Nord, vai in India, legati davanti all'ambasciata, fai qualcosa. Ma guarda, a me se mi danno la missione che devo andare lì, ci penso io. Come ci pensi tu? Ci penso io, come parlare con queste persone. Perché col dialogo si risolve tutto. Ma è due anni che stiamo a dialogare. La figlia di La Torre ha detto che l'Italia è un paese di merda. Scusa, ma a me non mi danno nessuna cosa, nessuna missione. A me se non mi dà la facoltà di andarci. Ma che vuoi fare? Vuoi fare veramente dopo la missione in Corea? Vuoi fare la missione in India? Perché no? Sempre per il bene del paese e per il bene dei cittadini. Ci mancherebbe. Vabbè. Guarda, te lo dico in parole abruzzese, da amico sempre, sting stang. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. fammi trovare un foglio, eccolo qui. E vi dico a cosa servono gli immigrati in Italia, caro Parenzo. Alcuni immigrati in Italia hanno una funzione fondamentale, soprattutto quelli che vengono dall'Africa nera. No, sei. Hai paura di quello che sto dicendo, eh? No, hai paura di quello che sto dicendo. Ormai vaccinato, sei vaccinato. No, ho fatto il vaccino Cruciani, si chiama. Sì. Allora, ma guarda che è una storia vera. L'ho presa dall'Unione Sarda. Unione Sarda. Prestigioso giornale sardo che racconta una storia meravigliosa. Per carità, già raccontate in alcune grandi città, però certo in Sardegna non era stata raccontata e questo fenomeno non si era ancora presentato. Allora, a cosa serve l'immigrazione barra clandestina ogni tanto in Italia? Allora, amico mio, senti, parla un 21enne senegalese che si chiama Papi, tra l'altro, Papi. Anzi no, parla... No, lui parla Papi. 21enne senegalese, senti. Sì. L'ultima volta è successo ieri sera. Di solito sono donne più mature a chiedermelo, ma stavolta era una ragazza. Mi ha portato a casa sua e abbiamo anche chiacchierato. Mi ha detto che il suo fidanzato era fuori per lavoro. Alla fine mi ha pagato. Ma io non le avevo chiesto nulla, non lo faccio mai. Quanto mi ha dato? 20 euro. Anzi, 22. Professione African Gigolo. Quello che una volta veniva chiamato Black Bamboo, amico mio, no? Come veniva chiamato? Scusa. Big Bamboo, in realtà. Big Bamboo. Allora, giovani, belli e senza soldi. Tra i clienti anche tante donne. Viaggio tra gli immigrati che a Cagliari si prostituiscono per poche decine di euro. Ecco, benissimo. Amico mio, c'è una funzione sociale in tutto ciò. Una grandissima funzione sociale. Ma a me lo dici, devi dirlo ai leghisti, non a me. No, ma perché lo dici a me? Io non mi scandalizzo. Non è ma so che vuoi fare un appello alla comunità indiana di Varallo, di Borgo Sesie. Molto, molto calmi. Amici 23, pare, a quanto dice il sedicente sindaco. Il sedicente sindaco, signor buon anno. Cari amici indiani residenti a Varallo Sesia, telefonate all'800 24 0024, ripeto, chiamate 800 24 0024, avrete la possibilità da qui alle ore 20:50 di mandare dove si merita il vostro sindaco. Telefonate, invadete la radio 800 24 0024. Ma poi ci saranno sti indiani a Borgo Sesia. Dice che sono 23. Dice. Ma che 23? Ma qui non esiste nessuna comunità indiana. Vabbè, TG3, poi razzi. Che ci racconta la sua Corea ancora in esclusiva da Pescara, dove è stanco, ha riposato oggi pomeriggio dopo il jet lag da Pechino, grande volo di Stato, Pechino non pagato dalla Boldrini, dalla Camera dei Deputati che si è rifiutata, secondo Parenzo hanno fatto bene. Si sono pagati il viaggio, però chi ha pagato il vitto e l'alloggio in Corea? Punto interrogativo, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La crisi ucraina spaventa l'Europa, manovre NATO ai confini orientali e annuncio di nuove sanzioni contro la Russia. La Mogherini, la responsabilità è di Putin. Il capo dello Stato Napolitano scrive ai presidenti di Senato e Camera, indifferibile esigenza di eleggere i due membri che mancano della consulta e gli 8 del Consiglio Superiore della Magistratura. Renzi domani le linee guida sulla scuola, non una riforma ma un patto educativo per superare la supplentite, la minoranza PD e no al pareggio di bilancio in Costituzione. Grillo attacca il programma dei 1000 giorni del governo, tassa dopo tassa Renzi affonda l'Italia e chiede di chiudere le frontiere perché i migranti portano la tubercolosi. Sull'immigrazione l'Italia ottiene l'appoggio della Germania al piano Frontex Plus che dovrà sostituire Mare Nostrum, Alfano il riconoscimento del nostro impegno. La Gran Bretagna revoca la richiesta di arresto per i genitori del piccolo Asha, malato di cancro. La coppia era fuggita in Spagna col bambino per ottenere nuove cure. Dall'ospedale di Potenza, in una telefonata ad un collega, un medico confessa: ho lasciato ammazzare una paziente. Aperta un'inchiesta. Una cosa pazzesca. Che bello, siamo a Pechino, sì. Io ho incontrato il senatore Nazzi. Ah, quello che è successo a Pechino. Oh, intanto ragazzi, oh, hanno decapitato un altro giornalista, questi qua dell'ISIS, pazzesco, questi del califfo. Chi è che voleva fare che diceva che la colpa lì era pure degli americani? Chi è che lo diceva? Sono stati loro. No, è chiaro. No. Chi? È colpa loro. Col califfo bisogna dialogare in streaming, l'abbiamo fatto con 5 stelle, ovunque. Metti un computer, ti colleghi. Ma te niente, dice scusi signor califfo, ma perché decapita? Perché? Parliamo, facciamo decidere alla rete se decapitare, se tagliare soltanto una gamba. La rete deve decidere Di Battista con una mail. Basta una mail. Poco sangue. Antonio? Sì. Andoni, Andoni, Andoni. Eccoci qui. Siamo qua. Hanno tagliato la testa un altro intanto, eh. Hanno tagliato la testa un altro, questi qua del califfo, del non califfato. È un amico quello lì, il signor Al-Baghdadi. In Corea del Nord non toccano nessuno. No, questo paese di liberali questo puri. Ve lo dico io da amico. No, amico mio, questo non si può dire. Fanno sbarare dai cani. C'è la pena di morte. No, non se ne trova i cani, pare, non ci stanno. Se ne mangiano. Capito? Se li mangiano. Non lo so, forse se li mangia i prego, ma no, non Però scusami, Antonio, ma tu non puoi dire che manco mentre quelli decapitano in Corea queste cose non accadono, perché anche lì c'è la pena di morte, ma tu non l'hai questo, vista, dici, tu non l'hai questo, vista. Come dice Crozza, non credo. Ma come non credi? Sicuro? Io credo che ci sia la pena di morte, amico mio. Però c'era il direttore di TV6. Ancora appunto. Con questa TV6. Ma cos'è da TV6? Non è Mieli! È Paolo Mieli il direttore di TV6. Alfredo, hai capito? Che è l'istituto Luce di Razzi. Che cos'è? Alfredo Giovannotti è ritornato perché è andata a riprendere la piazza dove c'è ancora questa. Ho capito, però. Ha trovato un cane. Dove? Che notizia è? Ha trovato un cane, perché io dici, ma tu hai detto sempre che non c'era un cane, non l'ha visto tu, i cani. Ne ha trovato uno e l'ha ripreso con la telecamera. Dice, allora. Una rarità, sembra una rarità che ha trovato un cane. Vabbè, adesso comunque lasciamo perdere. Comunque innanzitutto vorrei salutare, perché sono molti amici che ci ascoltano da New York e da Boston. Vabbè, ma che mi vogliono lì. Ma è morto uno, hanno tagliato la testa uno, amico mio. Che radio è? Radio dedica. Dai, però su. Scusami, Antonio, io voglio dire una cosa, ma tu sei sicuro? Cioè, la Corea. Tu non puoi dire la pena di morte non c'è. Adesso, ma sono brave persone questi qua all'ufficio. Il maresciallo Giuseppe. E i suoi sono brave persone? Ma in quanti paesi democratici al mondo c'è ancora la pena di morte? È un esempio l'America. In quanti stati in America è una democrazia, la pena di morte? Però. La democrazia, ma può essere un modello dei tribunali liberi che mi stava scappando una parolaccia. Cioè, qual è la parolaccia? Qual è? Dice, no, dilla, che problema c'è? Tanto non succede niente. Qual è? Ma la democrazia del cazzo? Che no, infatti è una cosa del genere, perché Parenzo mi ha detto così. Dice, ma perché non è la democrazia dice, l'America? Dice, dice, no. Ma lì c'è la democrazia, cazzo di democrazia. Le metto sulla sedia elettrica, sulla camera a gas e quelli parlano di democrazia. Ma perché l'America per te non è una democrazia? I tribunali americani sono un po' diversi da quelli coreani, scusami. Guarda, Davide. Lasciamo ma è un modello sta Corea o no secondo te? Secondo me sì, del nord ovviamente va benissimo così, sì, così. La cosa sono tutti contenti e felici, ma lo sai, guarda, ti dico una cosa, felice? Non ti puoi lamentare, no, se ma, la ti sbattono in galera, ma vi dico una cosa, perché c'è dice una cosa, però di una cosa vera, non come quella del cane del primo. No una cosa vera che c'è rimasto impressionato anche il mio amico Matteo Salvini. Sì, abbiamo visto, l'abbiamo visto. Allora, quando gli ha detto l'interprete lì che giravamo su un ospedale, e ha detto questo ospedale di 300 posti letti. Sì, letto, sì. Ci ha messo 8 mesi per costruire, per farlo. In Italia, 8 mesi, manca un progetto ti fanno passare. Questo è vero, però c'è un piccolo particolare, caro Antonio, che ho capito, quelli in 8 mesi, anche Mussolini faceva le cose rapidamente, o no? Ma allora, a che gioco giochiamo? No, ma appunto, dico, allora ci vuole un Mussolini in Italia, secondo te? Non dico, no. No, Mussolini no, però... La dittatura è brutta in qualsiasi paese. È brutta, però dici, però in democrazia, però dobbiamo levare un po' di tutta questa burocrazia, perché qui non. Però sto maresciallo è una brava persona alla fine, no? Ma chi è? Ma io l'ho trovato bravissima persona e molto alla mano, molto almeno alla mano. Ma dice che non l'hai conosciuto sto maresciallo. Come no, ci ho parlato. Ma che dice parlato? Il maresciallo? Cioè, hai parlato col maresciallo, con Kim Jong-un hai parlato? Ho parlato con lui, non adesso, l'altra volta, sì. dove io gli ho fatto i complimenti perché sta portando i calciatori in Italia, questo è un dittatore, non è che ti porta e ti manda. Ma sono bravi questi calciatori? Sono bravi? Eccezionale! Ma che eccezionale? È la fine del mondo! Ma quale fine del mondo? Oh, senti, un'altra volta vi invito a Radio La Zanzara, magari, ad andare lì vicino Perugia, dove c'è questa scuola. Sì, lo so che hai portato questi qua, sì. Sempre così. Cioè, ma questi qua sono bravi, potrebbero giocare in Serie A, sti coreani, che hai visto tu? Ma guarda, ce ne stanno già 4-5 che devono andare all'Udinese. Addirittura, già l'Udinese ha messo gli occhi sopra. Questo me l'ha detto il presidente. Scusa, Salvini, perché non hai consigliato qualcosa al Milan di sti coreani che hai visto pure te in Corea? Scusa, Matteo, Ma dai, a parte il fatto che il Milan è partito bene, poi viste le ciofeche che abbiamo visto a San Siro negli ultimi anni, magari un coreano non farebbe pessima figura. Buonasera al segretario della Lega Nord, ben trovato, come andiamo? Bene, bene. Beh, allora io dico una cosa, no? Compagno Salvini, possiamo dire compagno punto. Salvini? Beh, certo, a questo punto. Potete dire quello che volete. Dopo le notizie che ho sentito al giornale radio di Radio 24 che mi hanno fatto girare il sangue a mille, potete dire quello che volete. Che è successo? Che hanno decapitato quello? Che è successo? No, decapitato sì, e c'è qualcuno anche che giustifica queste politiche. No, però sentivo le sanzioni alla Russia, visto che stiamo parlando sì, di sì, la Russia, tu sei contrario. Solo dei cretini a Bruxelles possono decidere di prendere delle sanzioni economiche contro la Russia che costeranno ai nostri imprenditori €1 miliardo, sì. Perché qualcuno a Washington ha deciso così. Nel 2014 si dialoga. Dunque tu sei dalla parte economica di Putin da questo punto di vista? Tutta la vita dalla parte di Putin. Se una parte di Ucraina ha votato liberamente, si sente Russia, non vedo perché. Però adesso essere... questi vogliono portare pure i carri armati pure in Ucraina, nel territorio ucraino, vogliono fare una specie di protettorato, o no? Sì, ma l'esportazione delle libertà occidentali in Iraq, in Afghanistan e in Libia, avete visto che buon risultato hanno portato? Secondo voi è il caso che la NATO ipotizzi interventi anche militari in Russia? Mi sembra veramente che si stia giocando con sarebbe fuoco, come se la minoranza dell'Alto Adige sarebbe come che la minoranza dell'Alto Adige a un certo punto ma tu che farai aiuto... se che per opporti a queste sanzioni se verranno... Ma a Bruxelles, io sarò a Bruxelles giovedì e in tutte le maniere, anche se purtroppo i numeri dicono qualcos'altro, perché quando a Washington decidono qualcosa, a Berlino e a Bruxelles obbediscono subito e la Mogherini è stata messa lì apposta, noi cerchiamo di portare anche la voce, tra l'altro anche delle imprese europee, delle imprese italiane. Ci sono imprenditori italiani che magari ci stanno ascoltando che ci hanno messo 15 anni per mettere piede in Russia e dare lavoro a centinaia di persone. E adesso dice arrivano le e adesso per il ghiribizzo di qualche cretino a Bruxelles che parla di embarghi senza conoscerne poi le portate, rischiano di perdere tutto. Ma com'è Razzi, come compagno di viaggio? Ah, non lo conoscevo, è persona assolutamente vulcanica, è persona spumeggiante. Capito, Anto? Grazie Matteo, grazie. Senti, io, però... anch'io ci stiamo conoscendo molto bene. Ah, perché non vi conoscevate prima? Ma ci conoscevamo, però mai di solito quando uno ci sta tutti i giorni insieme si conosce i pregi e i difetti. Ma gli hai consigliato tu quel vestito da dirigente comunista, da burocrate comunista che ha portato Salvini davanti ai dirigenti là della guerra? Un completo grigio, adesso non mi metto mai la cravatta, una volta mi metto la cravatta blu su un completo grigio avete pure da ridire. La cravatta blu su un completo grigio, chiaro, è una cosa pazzesca. Io ho sentito un commento a un giornale che dicevo Razzi è riuscito a far mettere la cravatta a Matteo Salvini. Ma no, ma bisogna vedere che cravatta, il vestito grigio, che è una cosa inguardabile. È una cosa indegna la sua trasmissione. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. Se pensate che l'immigrazione serva a qualcosa, soprattutto l'immigrazione nera, prendete spunto, amici miei, da quello che succede a Cagliari, in Sardegna, dove l'immigrazione senegalese serve parecchio. Racconta Papi, 21enne senegalese, l'ultima volta è successo ieri sera, di solito sono donne più mature a chiedermelo, ma stavolta era una ragazza, mi ha pagato 20 euro, no, anzi 22, professione African gigolo, com'era quel modo di dire, Parenzo? You, if you try black, you never go back. You never go back. Quando l'immigrazione serve. Allora, c'è il capogruppo di Forza Italia in commissione esteri che si chiama Guglielmo Picchi, che dice sostanzialmente quello che io ho detto ieri. Ascoltatemi bene, sia Razzi che Salvini. Con la piccola differenza che no, tu fai il giornalista, io faccio il giornalista e questo invece fa il politico della commissione esteri. Per carità, va benissimo. Allora, Però se l'Italia pensa che l'India stia violando le leggi internazionali, stia violando il diritto, insomma che sta facendo delle porcherie nei confronti, certo, di 2 milioni, io non lo so, mettiamo che sia così, che l'India sta facendo porcherie, allora alla guerra come alla guerra, amici miei. E allora dice il signor Picchi, come ho detto io ieri, peraltro magari mi ha sentito e mi ha copiato, dice Picchi, che è della commissione, lo conosci Razzi questo Picchi? Come no, lo conosco. Lo conosci, come si chiama di nome? Guglielmo. Ah, Guglielmo. Mi chiedo, ma è così difficile un comando per liberare i Marò? Un comando, io dico, se uno è convinto. Ha fatto bene anche a dirlo così su Twitter, diciamo, questo, o di divulgarlo, essendo un politico navigato. Matteo, tu che dici? Matteo, che dici su questa cosa qua? Allora, se uno pensa che questi qua stiano facendo delle porcherie, allora facciamo, cioè, no, andiamo fino in fondo, andiamo a prenderli o no? Non li dovevamo rimandare indietro. Quello dovevamo, d'accordo, molto semplicemente rimandarli indietro. Quello Monti, il comando in mezzo all'India, dai, adesso. No, ma il comando. Se fossero stati soldati americani o tedeschi, non sarebbero stati rimandati in India. Siamo un paese da barzelletta, Monti li ha rispediti a casa, speriamo che tornino a casa il prima possibile. Mandare un comando italiano in India mi sembra veramente fantasia. Ma d'accordo, un comando italiano no, ma c'è modo, cioè stanno in ambasciata, in qualche che modo si occorra alzare la voce, fuori dubbio, che ci stiano prendendo per il naso è altrettanto fuori dubbio. Ma ci sono, stiamo parlando di sanzioni commerciali, stiamo parlando di applichiamole rapporti economici, applichiamole stiamo all'India. Stiamo parlando di Expo che l'anno prossimo ci sarà in Italia, c'è modo e modo per convincere una democrazia, perché l'India è una democrazia, a rispettare quello che dovrebbe però essere, scusa, un rapporto fra stati. Siccome tu hai detto che in Russia potrebbero perderci le aziende italiane, pure in India, tu sai che c'è un problema. Appunto, voglio dire, non credo che sia questo lo strumento, purtroppo, il comando men che meno, però rapporti fra nazioni evolute, fra Italia e Russia, fra Italia e India, penso che con un po' di polso, con un po' di palle, come si dice all'oratorio quando giochi a pallone, sicuramente non perdi 2 anni e mezzo di tempo. Vabbè, con tanti soldi qua, per gli avvocati eccetera, con il tuo collega Bonanno ha organizzato una cosa là a Borgosese, dice che vuole negare l'assistenza agli indiani finché non firmano una cosa a favore dei Marò, una puttanata? Mega galattica. Dai, non so quanti indiani ci siano, 23. Io mi vergogno di un paese che anche oggi ha fatto sbarcare 3.500 immigrati clandestini che manterrà a spese degli italiani, di questo mi vergogno e mi incazzo. No, che c'entra un par di scatole? Sono usciti gli ultimi dati sulla disoccupazione che non hanno precedenti nella storia della Repubblica italiana. Ma qui siamo di fronte a un tuo parlamentare della Lega che propone una cosa che è stato neanche eletto sindaco. Che è stato ma non è che se sei eletto sindaco puoi dire qualunque stupidaggine. Vuole negare l'assistenza a 23 indiani, semmai ci sia. Ma non è neanche possibile. Per quanto mi riguarda, io la farei a pagamento anche per tutti gli immigrati clandestini a cui concediamo tutto in tutti i pronto soccorso. Guarda un po', io userei il modello britannico in cui faccio pagare anche agli stranieri clandestini l'assistenza sanitaria. Guarda un po'. Senti un attimo una cosa, ma la questione della, però è interessante, no? Quella dell'India. I Marò, io voglio dire una cosa, Razzi, invece un bel comando lo facciamo o no per liberare sti Marò? Antò? Guarda, per me non ci serve nessun. E chi ci serve? Solo Berlusconi. Sentiamo. Ci serve. Ridare il passaporto a Berlusconi e mandare una delegazione con Berlusconi e pacificamente risolvere la situazione. Ma non è sempre così facile! Non si può rimandare i Marò. Monti ha fatto della sua vita, non può rimandare i Marò lì in India. Vabbè, quello è il passato ormai. Già adesso la situazione è tragica. Ma non è che basta il passaporto a Berlusconi. Posso dirvi che da parlamentare europeo, il Parlamento europeo vota risoluzioni su qualsiasi cosa accada nel mondo, sul piccione che cade in Uganda, e invece sull'India niente. Sul bambino, su questo affari italiani, no? Dovrebbero essere affari europei. Qual è la maggior... l'Europa esiste? Io sono convinto che l'Europa non esiste, ma se l'Europa esiste, ha 2 suoi militari detenuti in uno stato straniero. Non è possibile che si preoccupino giustamente della libertà di religione nel pare che abbiano ammazzato anche due pescatori, così tra parentesi mettiamolo tra parentesi. Lo facciamo giudicare da una giustizia terza. Beh, magari perché invece gli americani ogni tanto gli americani che ammazzano qua li vogliamo giudicare qua in Italia, però qualche contraddizione, cioè gli americani commettono dei reati qui li vogliamo giudicare che qui. Che li hanno fatto quelli del CERMIS? Dove sono andati? Giudicati? Ho capito, però noi li volevamo qua. Sì, ma siccome è finita così perché quelli erano americani, l'Unione Europea quando c'è di mezzo un italiano se ne strabatte. Stavo leggendo prima una mail di una di due agricoltori veneti, sì, che se avessero per le mani quelli che hanno deciso l'embargo alla Russia, visto che ci stanno rimettendo 40 posti di lavoro in Veneto grazie all'embargo nei confronti della Russia, probabilmente gli grande putiniano ormai. Senti Matteo, ma hai visto Grillo che è praticamente come te ormai, eh? Cioè, cosa ha fatto? No, beh, non sulla questione degli immigrati dice che ce la portano la tubercolosi eccetera, che... beh, ci sono stati i primi casi, purtroppo noi l'abbiamo detto 6 mesi fa, erano dei matti allarmistici, adesso razzisti. Beh, io, quando il governo britannico ha fatto più una che di Grillo e della Lega, mi fido del Ministero della Salute, francamente. Allora sono dei cretini gli inglesi che hanno convocato una riunione d'urgenza per affrontare l'eventualità del problema Ebola, quindi siamo al di là della tubercolosi. Comunque, gli inglesi avranno le loro segnalazioni su. Basta andare nel pronto soccorso e ti dicono che cosa? Basta andare in un pronto soccorso qualsiasi, magari ci sono dei volontari o degli assistenti o degli infermieri o dei medici che ci stanno ascoltando, che vi dicono che stanno ritornando diverse malattie ormai scomparse da anni in Italia, e ovviamente stanno tornando via mare, non stanno tornando grazie ai valdostani o agli svizzeri. Senti, qual è il maggiore pregio di Razzi? Lo spirito di iniziativa. Razzi, qual è il maggiore pregio di Salvini? È un grande comunicatore. È stato zitto, là in Corea non ha detto niente. Detto questo, abbiamo due modi di concepire la vita politica molto. Ma tu sulla Corea hai detto le peggio cose, Matteo, prima di partire avevi detto non andiamo come in Corea del Nord, non facciamo come in Corea. Quello lo dicevo da giornalista sulla libertà di informazione, che non ci sia libertà di informazione. Ma scusami, prendevi ad esempio la Corea, come giustamente dovrebbe essere, come il male assoluto. E poi sei andato lì a omaggiare. E sei andato lì a baciare la pantofola. Sai che però c'è qualcosa di italiano nei giornalisti coreani, perché il quotidiano, l'unico quotidiano che c'è in Corea, dedica la metà delle sue pagine a quello che fa il grande maresciallo, a cosa fa la mattina quando si alza, chi va a visitare. Ah, è la stessa cosa con Renzi, dici? È la stessa cosa con Renzi. È la stessa identica cosa con però, Renzi. Scusa. Che qua invece di un quotidiano ce ne sono 20 che ci raccontano Renzi si è soffiato il naso, Renzi ha giocato a tennis. Capito, però tu sei andato lì a baciare la pantofola. Hai baciato la pantofola. La bella è stata quest'estate, quando Renzi è andato a farsi una settimana di ferie meritate a Forte dei Marmi, sì, è stata una giornalista radiofonica che ha detto che Renzi stava facendo una vacanza attiva. Sì, vabbè, ma questo vabbè, c'è leccaculismo in Italia, lo sappiamo. D'accordo, però non puoi paragonare l'Italia alla Corea del Nord da questo punto di vista. Dai. E poi comunque sei andato a baciare la pantofola a quelli là. Tra l'altro il viaggio era detto quello che pensi. Razzi, scusa un attimo, Razzi, ma il viaggio è stato pagato, ognuno si è pagato il viaggio da solo, però a vitto e alloggio chi l'ha pagato? Vitto e alloggio chi l'ha pagato? Ma, secondo te in Abruzzo c'è una usanza e quando uno ti invita ti paga. Ah, cioè il regime ha pagato il viaggio? Ma cioè vitto e alloggio? Almeno se ci hanno invitato, ci hanno ospitato da gente per bene. Sì, perché se tu mi inviti a casa tua, non è che mi inviti e mi fai pagare un piatto di spaghetti. Ma dipende. Beh, oddio, dipende. Posso dire porta qualcosa magari. Salvini, no? Diciamo la verità. Vitto e alloggio, Salvini ti è stato pagato dai signori del regime nordcoreano. Ci hanno pagato 3 notti in un albergo, per carità, di livello. Detto questo, aereo, taxi, pullman, ristoranti, era, quante abbiamo stelle pagato era? Tutto. Quante non stelle, non so quante stelle coreane fosse, diciamo che in Italia... 5 lusso. Io non giudico. Cioè non era granché st'albergo, non era granché. Vabbè, era bello, dai, era dignitoso. Senti una cosa, ma è vero che la Boldrini non ha voluto, hai saputo sta cosa, non ha voluto pagarvi il viaggio praticamente come missione interparlamentare. Ma guarda, non ne ho la più pallida idea, ma sono orgoglioso A di non essere costato una lira ai cittadini italiani, B di essere lontano anni luce dalla Boldrini, che secondo me è la più antipatica, incapace di gestire la Camera dei Deputati, è l'esempio di come alcune istituzioni internazionali siano usate a scopo politico, perché rimbalzare dalla Commissione diritti umani dell'ONU a fare la madrina. Vabbè, questo... scusa, spiegami una cosa, ma perché non mi ha dato una lira, ne sono orgoglioso. Ma perché non sei andato? Ma perché sei andato in Corea del Nord? Io non ho capito questa cosa, manco Razzi l'ha capito. Prima per curiosità, poi confessare. C'è qualcosa di invidiabile? Avendo pagato io tutto, ho detto invece andare in Sardegna vado nel paese più ignoto, più sconosciuto, più strano, lo posso dire, più strano del mondo. Per curiosità, vabbè. L'ultimo dei paesi dove non esiste il telefono cellulare. Dove ma c'è qualcosa che dobbiamo invidiare la Corea del Nord? No, io mi tengo ben stretta la mia libertà. Detto questo, mi ha colpito il fatto che i bimbi? Possano giocare liberamente in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, fra di loro, senza non hanno la televisione, non hanno le PlayStation, non si tele rincoglioniscono, però crescono da bimbi. crescono da cioè, facendo non ascoltano radio bimbi, ma ascoltano anche la radio. Non rimbambendosi ti dici con i giochi, con le cose qui del consumismo occidentale, questo vuoi dire? Sì, detto questo, potrebbero me, crescere, crescono bene. Nel 2014 con una potenza piccolo, grande che sia, che ha l'arma nucleare, si dialoga, non si fa la guerra. Vabbè, ma a parte questo, tu dici i bambini crescono meglio che da noi? No, questo non lo so. Beh, come crescono, però ho visto dei bambini, da quel punto di vista ho pensato che mio figlio, se dovesse giocare per strada a Milano alle 7 di sera, io qualche preoccupazione ce l'avrei. Beh sì, però ti vorrei far presente che per il fatto che possono giocare alle 7 di sera, perché non c'è nessuno, non gira nessuno in Corea del Nord, cioè, c'è la dittatura, è come il coprifuoco assoluto, cioè, appunto. Ti posso però consigliare 5 giorni senza telefono cellulare? No vabbè, d'accordo, sai, uno può fare un esperimento, sono esperimenti estremi, un'altra vita, ma certo, ma su questo non c'è dubbio. Detto questo, e chiudo, è anche un'opportunità economica che spero si trasformerà in realtà per tante imprese italiane, certo, che potrebbero portare la trattori, motorini, impianti energetici, prodotti agricoli. Vi saluto, quindi... vi saluto, abbracci, ciao Antonio, a presto. Viva, viva. Ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Matteo, ciao, ciao. Ciao. Uff ragazzi, uff. Cioè, questa cosa qua bisogna chiarirla, amico mio, eh. Cioè, non è che i bambini possono giocare liberamente. Ho invidiato i bambini che giocavano liberamente. Amico mio, c'è la dittatura. La dittatura. È normale che c'è tutto, non c'è nessuno per strada. Ci sono solo i bambini. È normale. Vabbè, oh. Vincenzo da Roma, dai, Vincenzo. Sì, ciao, ciao Brucia. Ciao David. Dimmi, ciao, dimmi. Caro. Allora, ragazzi, innanzitutto bentornati, eravamo in assinenza senza ma di i Black Bamboo, ti piacciono i Black Bamboo? No, a me personalmente no, non mi piace. Non so a te, Cruciani. No, a me non mi piace il Black Bamboo, però mi ha molto incuriosito questa cosa, professione African Gigolo. Ma una cosa pubblicata da un giornale sardo, in Sardegna pare che un sacco di donne insomma, vogliono tried black, come si dice, no? Vogliono provare il nero, Ti appassiona questo. Sì, vogliono pagare, anche pagando pochi euro, eccetera. E ci sono racconti pazzeschi, mi ha veramente colpito questa cosa. Giuseppe, dimmi. Ma tu sei un grande gourmet della fica, cioè tu sei un grandissimo estimatore, mai potresti. Beh, adesso non esageriamo, dai. Sì, vabbè, no? Dai, non fai il modesto, non fai il modesto. Ma non esageriamo, sono dicerie, sono solo racconti, leggende. Dikunt. Dikunt chi? Dikunt. Dikunt. Che sei? Vivi accanto a me, che ne sai te? No. Io vivo a Roma. Senti, Giuseppe. Dimmi, caro. Io ti ho chiamato perché volevo dire una cosa a David. Eccolo. Che vuoi allora, dire? Allora, David, ascolta. Io ho trovato la proposta di cui prima ha parlato Giuseppe, quella dell'eurodeputato Buonanno, sì. Eurodeputato Buonanno. Io devo dire che, sebbene possa essere perlomeno strana, guarda che strana, perlomeno... è una follia, è impossibile da praticare, è David, una stupidaggine. Però, ma sempre meglio questa della cooperativa dei Rom. Allora, ma David, cosa c'entra? Ma non ho capito, se tu sei italiano, perché a te, tu sei italiano e dici che gli indiani hanno ragione a tenersi i marò, hai diritto o no ad avere la sovvenzione sociale? Okay, è una discriminazione, siccome è talmente evidente che lui lo fa solo perché sono indiani e soprattutto per rompere le balle, perché non ha niente da fare né da dire, deve soltanto provocare, è chiaro che la ragione è questa, perché non ha nulla né di logico né di possibile dal punto di vista giuridico. Se la situazione è assurda, lui ha fatto una proposta politica. Ma non ha fatto una proposta, ha detto una stupidaggine, non ha fatto una proposta. Ho capito, ma sempre meglio di niente di fronte all'indifferenza di tanti altri. Ma qual è l'indifferenza? Ma cosa vuol dire indifferenza? Ho capito, quelli là stanno reclusi in quella prigione. Sì, ma non da è che anni. Si può dire qualcosa, ma tu cosa non è che si può dire pur tutto. Pur di dar agria alla bocca, ma quello lì non è un politico, lo paghi per dire tu, se tu sei contento così di pagare uno 12.000 euro che sta a Bruxelles e Strasburgo per fare questa roba, se ti piace pagare il biglietto di questo spettacolo piuttosto caro, a me no, ma a te piace così, che te devo fare? A Marco, piace? Provincia di Bergamo, Marco. Sì, buonasera. Vai. Luciani. Ascolta, anch'io volevo un intervento di Parenzo, perché non è un po' che non fa tutti quei suoi bei interventi mielosi, che mi serve di sentire le sue ma che vuol dire concretamente, che vuol dire? Ma che ne so, dico, per esempio io parlando sempre di Black, no? Quello che è successo ieri a Iesi con quell'emulatore di Cabobo, voleva un commento da parte sua, no? Ma non c'è nessun commento, è un criminale, basta. Voleva parlare, voleva istituire qualche cooperativa di lanciatori di coltelli. Nessuna bella battuta divertente, ma nessun sì, commento. Sì, come volevi istituire la cooperativa dei Rom, la cooperativa dei criminali Rom che alla stazione di Firenze rompevano i coglioni. Ma non la cooperativa di quelli che si accoltellano per strada, scusa, ci mancherebbe pure. Mi servono questi commenti perché più ne fa e più invoca un intervento di Riccardo da Roma, perché ci manca da troppo tempo Riccardo. Oh, da Roma. Cos'è, caro cos'è, Riccardo, quanto ci manchi, quanto ci manchi Riccardo. È ciò che manca anche a te, caro Cruciani. Sì, sì, Riccardo, quanto mi manchi Riccardo da Roma, siamo, ti prego. Siamo almeno in 2000 su Riccardo da Roma, fans club su Facebook che aspettano. Ah, partecipi sera. Anche tu, partecipi. Che bel gruppo di Perdigiorno. Iscriviti anche a quel gruppo di nostre fan che si chiama Delirio Vaginale, che ringrazio e ma saluto, abbraccio fortissimo. Beh, ottimo, Delirio Vaginale, già la parola, come dire, rende l'idea, no? Li avrò Delirio Vaginale su Twitter, è una grandissima cooperativa femminile ovviamente, e che vanno in delirio quando ascoltano la Zanzara, in particolare me, ma non solo me, anche qualcuno purtroppo è perversa anche quando ascolta la tua voce. Sì. E beh, bisogna omaggiare. Ma li conosci signore. Di persona? No, tu queste no, signore? Chi conosce? Io non conosco nessuno, io vedo solo delirio vaginale, alcuni nomi guarda. Che possono essere anche falsi. Delirio magari vaginale. Sono uomini magari? Ma magari sono anche uomini, chi se ne frega. Durante le vacanze però le frasi di Salvini viralmente si espandono nella rete, vedo, aspetta fermo. Durante l'estate cosa ho sentito? Ho sentito a proposito dei bronzi di Riace questa cosa magnifica del professore emerito Vittorio Sgarbi: dobbiamo continuare questa grande campagna per sequestrare ai calabresi, per sequestrare ai calabresi. E quando dico calabresi, come giustamente mi dice l'amico Charlie Gnocchi, non devi dire calabresi gli abitanti della Calabria, tutti, è evidente che mi rivolgo ai calabresi che hanno amministrato male, malissimo i bronzi di Riace. Bisogna sequestrare alla Calabria i bronzi di Riace, portarli dove c'è la civiltà, dove civiltà, per modo di dire, comunque insomma, c'è maggiore civiltà, no, portarli dove qualcuno se ne prende cura, sì, in modo appunto c'è civiltà, prendersi cura dei beni culturali, prendersi cura dei bronzi di Riace significa civiltà, chi non l'ha fatto è un incivile. È certo. Molto semplice, certo. Non è che significa solo dubbio. Una cosa incivile, portarli con un grande treno a farli vedere in tutta Italia, portarli all'Expo di Milano per 6 mesi, sequestrarli con i carabinieri, con la polizia, bisogna sequestrarli alla regione Calabria, al comune di Reggio Calabria, non so a chi diavolo siano affidati, non mi interessa, comunque li hanno amministrati male, non hanno saputo cavare un ragno dal buco, non hanno saputo tirare fuori il denaro, l'oro da quella roba lì, ce li prendiamo noi, a questo punto ce li prendiamo noi, lo Stato se li prenda, cazzo! Questi bronzi! Sgarbi! Come il caso Andreotti. Andreotti era mafioso fino all'80, e dall'80 in poi non è più mafioso. Loro erano viaggiabili fino all'80. Non sono viaggiabili. Ma cosa mi vengono a raccontare? Fino all'80 non erano fragili? Imbecilli! Questa era sulla fragilità dei bronzi di Riace. Qualcuno dice sono fragili, non si possono trasportare, È come un genitore che ha paura che la figlia, andando fuori, trovi qualche malintenzionato come Sassi o come me e la tiene a casa e gliela scopano a casa. Questa è curiosa, questa. Qual era, com'era la storia? Questa è curiosa. Aspetta, fammi sentire, questa è curiosa. Professore, fammi sentire questa cosa. L'hai professor persa Sgarbi, questa? Aspetta. È come un genitore che ha paura che la figlia, andando fuori, trovi qualche malintenzionato come Sassi o come me e la tiene a casa e gliela scopano a casa. Il treno dei bronzi ci vuole. Adesso sto convincendo a Sgarbi, ma già è convinto a fare propria questa campagna. Il grande treno che porta i bronzi dopo il sequestro della polizia, che porta i bronzi in tutta Italia. Perché a questi ministri del cazzo che abbiamo, e buoni a nulla, e che chiacchierano e basta, non vengono in mente queste idee rivoluzionarie? Bisogna fare la rivoluzione su alcune cose. Non ci piace il trick e track, il tran tran quotidiano. Ci vuole la rivoluzione in alcuni casi. Noi non i delle piccole trattative, le cose. Se questi dicono di no, vai là, li prendi con la polizia, perché è nostra, è roba nostra, non è loro. Non è di questi burocrati calabresi del cazzo. E dai, su, non è possibile questa cosa, che non si possono portare a Milano dei due bronzi maledetti per farci i soldi quando questi non sono capaci di fare nulla. Sta regione Calabria commissariata, tutti dell'Andrangheta ogni volta, è uno scandalo, dai. c'è la pausa oppure no? Che c'è? Andiamo, dai, forza. Poi torniamo con. Abbiamo scoperto, caro Parenzo, che tra i grillini si annida. Beh. C'è anche Grillini, tra quelli che. Tra gli amici dei Grillini. C'è uno che addirittura pensa che la donna è meglio che stia a casa e che non lavori. E che non lavori. È un nostro amico con cui combattiamo spesso e combatteremo anche stasera. Era offensivo? Era sgradevole? Era disgustoso. Vuole che vada avanti? Una volta ha voluto che approvassi un concorso in cui regalava una tazza del gabinetto all'ascoltatore che produceva le feci più grosse. In onda. Immagini l'organizzazione logistica. Andrea da Caserta, dai. Adesso buonasera, signor Cruciani, buonasera e bentornato. Ciao Andrea, dimmi. Buonasera, allora, siccome l'altra volta il signor Parenzo, dopo che ha attaccato, mi ha insultato, no, mi sono preso la briga di guardarmi un pochettino meglio tutti quanti i parcheggi del nord Italia. Io sfido Parenzo, sì. Sfido Parenzo a dire che i gay non sono delle persone malate. Andrea, lei fa il camionista, è uomo di mondo, vede un sacco di cose. Che sì. Cosa ha visto? Che cosa ha visto di così drammatico in questo mese? Delle robe allucinanti. Ma li ha filmati? Cosa ha fatto? Le ho anche filmati per controprova a quello che diceva Parenzo. Gente sposata, gente con figli a casa. Sono dei... ma fanno vomitare. Cioè tu quando vai con una ragazza, no, la conosci, se ti piace poi ci vai a letto, giusto? Questa è la normalità per fare sesso. Cruciani, se ti dico che questi si inculano al buio, scusa la parola, senza nemmeno che si guardano in faccia, guarda che questo è un fatto da depravati, è un fatto da persone malate. Pare, allora, che tu c'hai la pendenza che questo qua è assolutato e a me non me ne frega proprio. Allora tu vuoi difendere la tua categoria, a me mi sta bene pure, però non puoi venirci a dire che siete delle persone normali. Voi non siete normali, perché se no sareste donne né uomini, hai capito? Invece non siete né donne né uomini, sono gay. Crucia, mi senti? Allora, io arrivo da un parcheggio al buio. C'è una persona vicino a un albero, io non lo posso vedere perché è al buio, i parcheggi sono bui, no? Tu lo sai come sono i parcheggi? Vado vicino a questa persona, gli sbottono i pantaloni, glielo tiro fuori e me lo metto in bocca. Secondo te che è normale questa persona? Erano persone che all'apparenza sono normalissime. Sono persone che lei. Quanti cazzi volano in questa trasmissione? Che mi dici che sono equilibrati mentalmente? Non è così. E non te l'ho detto, sono una persona, te l'hanno detto molte persone. Ma allora questo signore qui, dice lui, avrà una compagna, una moglie come lui. Non solamente può adottare un bambino, ma lo può anche fare. Pensate che disastro, con una madre così, che fanno un bambino con quella testa lì. Che disastro! Capito, caro camionista? Sei un disastro! Pascani, sei tu un disastro! Ma figurati, poveretto sei! Sei tu poveretto, metti freno a mano! Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Parenzo, sei sopravvissuto? Cazzo, a questo Amarcord generale. Amarcord è successo ieri, adesso lo esageriamo. In mezzo c'era è successo anche, ieri. No? Ma abbiamo con noi uno dei nuovi conservatori italiani. L'abbiamo scoperto oggi, io non lo sapevo, una cosa straordinaria. Daniele Martinelli, blogger 5 Stelle. Buonasera, Martinelli. Buonasera Crociani e Parenzo, buonasera. Beh, amico ciao, mio, caro. Io devo dire una cosa, hai dimmi. Scritto delle cose pazzesche, però devo dire la verità, siccome uno pensa... Davvero reazionario, davvero reazionario. Beh, perché reazionario, dici beh, Parenzo? Davvero reazionario. Beh, sì, per alcune cose si può dire reazionario, sì, diciamo sì. Alla Parenzo. Per esempio, quando tu scrivi, l'hai scritto sul tuo blog, che sì. Le donne devono è meglio che stiano a casa. Questo dici sostanzialmente, adesso beh, non no, cambiare sì. Le carte in tavola perché questo è scritto. Ci abbiamo davanti. O no? No, non cambio le carte in tavola, dico che le donne è meglio che stiano a casa nel momento in cui scelgono di fare le mamme, questo certamente. Potranno decidere. Cioè, scusa, io non sono d'accordo sulla figura della madre che faccia la madre che lavora, è un obbrobrio che è innaturale. Cioè, scusa, non ho capito, e che cos'è innaturale? La mamma che lavora? No, la mamma che lavora ha tutto il diritto di lavorare, di affermarsi professionalmente, ma nel momento in cui sceglie di lavorare, sì. Come hanno fatto tante grandi donne, prendi Raffaella Carrà, sì, è stata una grande professionista e non è mai diventata mamma. Cioè tu dici che se una donna lavora, se una donna lavora impegnata nel lavoro non può fare la mamma? Non è che non può, secondo me non lo può far bene e i figli ne soffrono. Ma chi sei tu per dirlo, Martinellino mio? Però guarda, ma io sono. Ma guarda, meno io male parlo, che non governate, perché se parlo, no qui... parlo per esperienza, guarda, io parlo per esperienza e perché. Perché per esperienza? Non ho capito. Tua moglie la lascia a casa comunque, con chiavistello? No, che no ma perché tutti conosciamo attorno gente che. Cioè le donne che lavorano oggi, intendiamoci, non è che lavorano per scelta, lavorano per costrizione. Ma che ne cioè, sai? Ma che stai dicendo? Ma sei impazzito, Daniele? Ma perché uno stipendio non basta più? Quindi ci sono moltissime donne che lavorano perché sono costrette a farlo per mantenere il bilancio familiare, ma se potessero stare con i loro figli, molte di loro, io sono convinto che ci sarebbero volentieri e sarebbe meglio in quanto mamme. Cioè tu stai dicendo che la famiglia ideale per te è l'uomo che lavora, la donna sì. Che cresce i figli e non lavora. A questa parte è la tua che a casa può starci anche il padre ogni tanto. Ma attenzione, perché crescere i figli è un lavoro nobile tanto quanto quello dell'uomo. No, no, ma sto dicendo che non sia nobile, sto dicendo che la tua famiglia ideale è questa qui. La mia famiglia ideale sì, io se potessi scegliere, sì. Nel momento in cui scelgo di fare una famiglia con una donna, sì. Ovviamente preferirei che nel momento in cui vuole fare figli, che vorrei che non lavorasse. Cioè la donna mamma che lavora è un obbrobrio. Sì, perché io preferisco lavorare io e che lei cresca i figli, io sono di stampo così, cioè la vedo così. Beh, per carità, sono stato bambino con la mamma, io sono... Io sono stato bambino e mia madre ha sempre sì. Fatto la casalinga, quindi mia madre per me era un riferimento. Quando la volevo c'era sempre, per cui è stata per me un punto di riferimento importante. Il padre c'era ogni tanto, quando non era però lavoro. I tempi sono anche cambiati, caro Daniele Martinelli, ma, blog a 5 Stelle, come si ho dice? Ho capito, ma sono cambiati i tempi perché molte volte... non è positivo, cioè quando si va avanti... No, si è costretti a cambiarli. Cioè si stava meglio quando si stava peggio, dici te? Ma non si stava peggio, secondo me era meglio una volta, cioè la donna, la mamma di famiglia che ha dei figli, che è la bilancia dell'economia familiare, sì. Secondo me, è il pilastro, una donna che fa la brava casalinga e che attiene i figli, che alleva i figli e che ragiona col bilancio familiare, è una donna che sicuramente farà ricco il marito, secondo me. Poi se vuole lavorare è libera di farlo, torno a ripetere. Io cioè non per te la donna mamma unico. Impegnata nel lavoro è contro natura? Secondo me sì, secondo me non è una condizione ideale certamente, ma non tanto per lei, per i figli. Ma scusa, quelli dei 5 Stelle, adesso tu non sei per carità, non hai nessuna destra, non so se sei iscritto eccetera, però sei sempre stato considerato, sei sempre stato considerato molto vicino, hai fatto parte dell'ufficio stampa dei certo. 5 Stelle alla Camera eccetera, ma lo sanno come la pensi su queste cose qua? Perché sono loro da questo punto di vista sono molto avanzati, diciamo, avanzati non lo so, secondo ma, una certa... Ma bisogna vedere cosa intendi per avanzati. No, vabbè, avanzati nel senso di quello che si intende, diciamo, nella vulgata, no? Sono a favore della legalizzazione delle coppie gay, del matrimonio gay, anche dell'adozione. Ma io non sono così sicuro, no? Io non sono così sicuro che i 5 Stelle siano favorevoli tutti alla legalizzazione delle coppie gay. Questo è veramente uno dei temi. Cioè, che, tu, per esempio, il divorzio. Dei tanti no? Temi come la politica estera che non sono stati molto affrontati. Il divorzio, per esempio, no? Sì, il divorzio. Tu sei contrario? Allora, il divorzio con i figli piccoli, sì, io sono contrario. Cioè, il divorzio è sempre una sconfitta ed è una perdita. Ma quello lo sappiamo. È un gesto. Fossi un legislatore... con i figli piccoli, il divorzio è sempre una scelta irresponsabile. Vabbè, e poi però... che a noi faccia comodo. Ce lo sta dicendo anche a noi. Giustificarlo perché Non si, perché siamo degli irresponsabili. Cioè ci facciamo prendere dal vizio, dal vizio. E non siamo in grado di pensare all'interesse dei figli che vedono in noi dei riferimenti. Ma guarda, sono delle persone che si separano proprio per non fare subire altri dolori. Cioè io e Parenzo siamo separati perché... con figli piccoli, siamo che noi. Siamo dei pazzi scriteriati. No, no, parliamo di noi, parliamo di noi. Allora, guarda, siamo tutti a rischio separazione, secondo me. Ma questo tempi. Adesso ok, dire, certo. Quindi nessuno, cioè nessuno mette la mano sul fuoco. Il punto è che se uno dei due se ne va, secondo me è un irresponsabile, che sia lui perché si invaghisce di un'altra o che sia lei perché si invaghisce di un'altra. Cioè lo vieteresti te il divorzio con i figli minori, lo vieteresti? Secondo me è un'azione irresponsabile da coglioni. Ok, perché quando tu hai un bambino piccolo e hai un figlio e hai una famiglia, secondo me dovresti avere la responsabilità e dovresti anche addossarti il dispiacere di condividere, comunque di trovare un compromesso con la tua lei, un modo di pacificarti. Ma lo vieteresti o no? Lo vieteresti o no? Per il bene dei figli, perché i figli, noi siamo stati bambini e se noi pensiamo quando eravamo bambini, io quando ci penso dico mia madre e mio padre per me quando li sentivo litigare stavo male. I miei non si sono separati. Vabbè, ho capito, però ma cosa c'entra? Qualche volta quando si sta insieme si litiga è peggio, Martinè, cioè no, è peggio. No, non è vero. Guarda che anche sta cosa del fatto che i figli non debbano assistere alle liti. Le liti fanno parte della vita. Cioè, vivendo cioè è meglio insieme, assistere ai genitori che si spaccano la testa piuttosto che la separazione, ma dici? È chiaro che no, ma allora i genitori che si spaccano la testa. Vabbè, ma per dire, un modo sono di dire. Sono due coglioni, sono due coglioni. Perché vuol dire che non sono in grado di rendersi conto che hanno dietro dei bambini che devono accudire, che devono in qualche modo tutelare e quindi non sono abbastanza responsabili. Io non, secondo me non c'è nessun motivo che giustifica. Cioè tu in 5 minuti stanno dei coglioni a migliaia di italiani che purtroppo secondo del mare hanno fatto sì. Questa scelta. Bravo. Secondo me, allora, bravo. Secondo il mio punto di vista, purtroppo il divorzio con i figli piccoli è sempre una sconfitta ed è uno sbaglio. Ma questo lo sappiamo. Tu dici dovrebbe essere proibito addirittura. No, proibito no, ognuno si assume le sue responsabilità. Però chi si separa con i figli piccoli è un coglione. Guarda che il divorzio è entrato come legge in tutte le democrazie, diciamo, evolute, tra virgolette, nel periodo della tecnologia dell'epoca industriale. E che c'è di male? E allora vuol dire che da un certo punto di vista, secondo me, il divorzio serve anche al fatto, all'economia, perché se tu sei in una famiglia con marito e moglie, i due si separano, i due vanno in due case, comprano due TV, hanno due televisori, due frigoriferi e consumano, quindi rispondono a determinati interessi, capisci? Secondo me il divorzio è frutto dell'interesse di chi vuole più consumo. È anche questo, cioè secondo me è troppo siamo veramente fuori, cioè si concepisce il divorzio come una cosa normale, ma è normale, le persone stanno insieme e si separano, perché sia un disastro è sempre un disastro per i rapporti, ma non si può concepire una roba in cui cioè uno dei divorzio ci sta quando non hai figli piccoli, basta. Altrimenti se tu hai dei figli piccoli devi metterti una mano sul cuore e renderti conto che tu hai messo il mondo delle creature che potresti far soffrire. Non siete seri per niente. Abbiamo con noi Daniele Martinelli, blogger molto vicino ai 5 Stelle, tesserato. Guarda, 5 Stelle, tesserato. Un nostro ascoltatore in questo momento in macchina che si chiama Chicco Ortona. Giustamente chi mi scrive. Chi cazzo è Chicco Ortona? Scusami, amico, perché stai citando? Ah, è un amico tuo, non è che è un ascoltatore. Comunque, un ascoltatore. Chicco Ortona dice: ci si divorzia perché hanno abolito la poligamia. Ecco, questo dice. Vabbè. Un altro mi scrive, caro Martinelli, perché stai suscitando grande dibattito, per fortuna. La cosa è questa: allora, se uno picchia la moglie, che fa? Non si deve separare per amore dei figli? Non ho capito. No, se un marito... uno che picchia la moglie è un pirla. Vabbè, ho capito, ma succede pure. Ma questo, a un certo punto, la gente si separa. Se c'è un figlio minore e uno picchia la moglie magari chiede la separazione. Non è che ha torto a chiedere la separazione, non è che o no? Sì, non è che ha torto, ho capito. Però deve resistere anche alle botte del marito, dici te. Però, guarda, ti dico la verità: dimmi. Un marito picchia la moglie e poi si sta la moglie, io picchio lui, cioè capisci? Ah, devi perdonarlo, dici. Invece di separarti, è meglio perdonarlo. bisogna rendersi conto, secondo me, cioè qui è un problema di arretramento. No, però andiamo alla concreto. Cioè, se una moglie, viene picchiata, tu dici deve, in nome, con un figlio piccolo, deve passare sopra anche questa cosa e riconciliarsi col marito in nome dei figli piccoli, giusto? No, secondo me va rieducato il marito. Vabbè, cioè, la nostra società dovrebbe quello d'accordo, grado, quello è un coglione, un violento, ci sono le leggi. Noi ci no, scusami Giuseppe, se noi ci reputiamo una società avanzata, purtroppo, se ci sono delle sacche di illegalità e gentaglia che picchia, dovremmo essere attrezzati per cercare di rieducare questi energumeni del cazzo che si permettono di picchiare una donna. D'accordo, ma la donna col figlio piccolo, quando viene picchiata, non può chiedere la separazione, è uno sbaglio secondo te? Non è che non può, è chiaro che se lo. Infatti succede migliaia di volte, ma si chiede anche per molto meno la separazione. Però secondo te è sbagliato, cioè, anche nel caso di botte, secondo te è comunque sbagliato? Secondo me dovremmo essere in grado di cercare di fare in modo che il marito non picchi più la moglie e che loro due vadano d'accordo per il bene dei figli. Ma io voglio dire, Parenzo, dillo tu, ma anche nel caso di botte. L'unica nostra fortuna. Aspetta, una che va a sposare uno, che volevi dire? Una donna che va a sposare uno che la picchia, è una che non ci vede. Ma diciamo magari se ne accorge dopo, che ne sa, non è che lo sa all'inizio. Ma le persone cambiano poi, purtroppo. Sì, ma come? Uno che picchia. Cioè, picchiava, cioè anche è colpa della moglie che se lo prende, dici te. Ma quanti sono i fidanzati che si menano? Questo è vero, ma è colpa della moglie è anche colpa della moglie che si prende uno violento quando viene picchiato. Scusa, la colpa è un po' di entrambi, però certo c'è sempre uno che ha di più di colpa, è chiaro. Il problema è anche tutto un po' legato alla sorte e alla fortuna, però io dico. È vero che se le botte sono continuate, è vero che se uno resta insieme a una persona, ma appunto c'è la separazione. Serve a quello. Non è che uno piglia le botte, però no, ci sono i figli piccoli e bisogna salvare il matrimonio. E siccome Martinelli dice un corno, abbandonarlo. Io ragiono, mi metto nei panni dei bambini, questo io dico. Noi dovremmo essere in grado di rieducare questi energumeni, basta, perché non sono tutti così. È vero che c'è chi picchia ed è vero che purtroppo una donna che viene malmenata non ha altra scelta che chiedere il divorzio o la separazione. Però alla fine è meglio di no, anche in questo caso è meglio. Secondo me non è la soluzione, cioè può essere una soluzione che risolve, ma secondo me sarebbe meglio se si potesse risolvere facendo ragionare lui. Ma come la vedi? Ma ragionare lui, ma c'è gente che non ragiona manco per il cazzo. Senti un attimo. Allora infatti che si separa, infatti vedi che fanno alla fine lì. Senti Daniele, io non ho capito una cosa, ma come lo vedi un bambino in mezzo a due donne o in mezzo a due uomini? Ma per me, guarda, un bambino che uno viene proprio, educato, uno proprio, dillo, un dillo. Bambino, un minore che viene educato in un ambiente familiare da un solo genitore o da due genitori dello stesso sesso avrà secondo me un'educazione monca, perché secondo me un bambino, siccome lo generano, cioè un uomo, verrà una donna, traviato, diciamo, un po' traviato, non lo so se verrà traviato, certamente viene più esposto a rischi di disagio. Mi ha scritto un altro arrabbiatissimo, non meravigliamoci che se oggi abbiamo sacche di bullismo e sacche di disagi di giovanissimi che non hanno più riferimenti. Non dimentichiamoci che molti di questi giovanissimi, anche se è brutto da ammettere, sono figli di coppie o comunque separate o figli di un solo genitore, e questi genitori che hanno la pretesa di dire: ah, mio figlio, l'importante è che gli do l'amore, l'importante è un corno. Ma perché, scusa, non ho capito, due uomini non sono in grado di dare amore? Due donne non sono in grado di dare amore? È un amore monco, incompleto, innaturale. Il bambino, per avere amore totale, lo deve avere da un uomo o una donna, possibilmente genitori. Monco, sei tu gli affetti. Vabbè, però è contrario in questo caso, dice che è contrario all'adozione gay. Gli affetti sono plurimi, gli affetti sono diversi da come le immagina lui, che addirittura vorrebbe far stare insieme due che si menano. Certo che ho figli, certo che ho figli. Li ho anch'io e ti posso garantire che, allora, avendo anche maschi e femmine, secondo me, per la loro formazione, per le loro pulsioni, i loro istinti, per la loro educazione, per dare loro più equilibrio, secondo me è giusto che siano in due genitori a dare amore ai figli, che sia l'uomo e sia dunque la donna. Dunque no all'adozione gay e no all'adozione dei singoli. L'adozione gay è un obbrobrio. L'adozione gay è un obbrobrio. Ma non solo gay. Adozione anche un solo genitore. Purtroppo se uno dei due muore non c'è la per cui quella sentenza dell'altro giorno che cos'è? Del tribunale che affida a due donne, il fatto che poi siano due donne è una mostruosità. Io non lo tollero, cioè secondo me è inaccettabile. Il bambino non ha nessuna colpa, né pietà né pena, ma non perché io sia contro i gay, attenzione. Io non ho niente contro i gay, ci mancherebbe, sono liberissimi di sposarsi, di mettersi in famiglia. Però non ti piacciono anche, molto sti croci. Ho anche dei parenti gay, quindi parliamo di cose che conosco, di condizioni che conosco. Però non ti piacciono molto sti gay. Non è che non mi piacciono, io ho tantissimi amici gay e non ho nessun problema, però Io non do, per io, se dipendesse da me, e se io fossi in Parlamento, voterei contro una legge che permette l'adozione ai gay. E il matrimonio? E il matrimonio? Il matrimonio gay sì, va bene, a me non interessa. Però, l'adozione no. L'adozione no, assolutamente contro, no. È una cosa contro natura. Secondo contro me un bambino, un tribunale soprattutto, che decide il destino di un bambino, di un minore, dovrebbe preoccuparsi. Cioè ha ragione il centrodestra, per esempio, quando dice che è un colpo di Stato in un tribunale che decide questo. È una stronzata. Allora, abbiamo in Italia decine di migliaia di coppie eterosessuali, uomo e donna, decise a adottare, devono andare in culo al mondo per portare a casa un bambino, e qui in Italia non hanno modo di averlo, e abbiamo dei tribunali, in questo caso fortemente non in Italia, che quindi creano giurisprudenza affidando comunque una madre che convive con un'altra donna un bambino. Comunque mi scrive uno, giustamente dice, ma guarda che anche Hitler, Castro, Stalin vengono da coppie etero, cioè non è che vengono da coppie gay. Ho capito, ma perché dobbiamo sempre fare le eccezioni? Parliamo di eccezioni che fanno le regole, cioè, ma abbiamo capito il disagio, non è che il disagio, la pazzia, la follia sono prerogativa di chi viene tirato su da una coppia gay o di chi viene tirato su da una sola donna, da un solo uomo, da famiglie, come dire, irregolari. La pazzia, io non lo so se è prerogativa, io dico solo che quanti di noi sono cresciuti con coppie gay? Quanti di noi possono dire ma cosa c'entra? Certo che c'entra. Scusa, perché ma Grillo che ne pensa? Così? Grillo ma che ne pensa? Scusa, in nessuna cultura, cioè nella storia dell'umanità, in nessuna cultura del mondo, in qualunque punto del mondo, ci sono state delle legittimazioni di coppie gay che allevano i figli. Da nessuna parte, dal Brasile all'Indonesia all'Europa, da nessuna parte. Tuttavia, in alcune tribù indigene ci sono gruppi di mamme che, come gli elefanti, allevano i figli, ma sono gruppi di mamme che non hanno relazioni sessuali. Cioè nemmeno negli animali, dici tu. Ma l'omosessualità è una condizione che uno vive perché la sente di viverla. No, ma dico, ma nemmeno gli animali tirano su dello stesso sesso due un bambino. No, ci sono delle razze animali che comunque, ovviamente gli elefanti, anche le leonesse, no? Che tirano su i piccoli in gruppi lontani dai maschi. Voglio dire, non è questo, però il punto è che secondo me, il mio punto di vista ovviamente è opinabile. Ma Grillo che ne pensa? Secondo me Grillo la pensa come me. Secondo me Grillo credo che se dovessimo chiedergli sull'adozione ai gay, io non credo che sia favorevole. Senti, me. Ma a proposito delle donne che secondo te è giusto quando sono mamme che non lavorino, no? Ma tutti i senatori onorevoli dei 5 Stelle donne che invece stanno alla Camera e hanno la babysitter, eccetera, dunque lavorano, che sono obrobri pure loro? Obrobri, secondo me ce n'era una infatti alla Camera, mi ricordo quando ero in ufficio stampa c'era un bimbetto piccolo che era tenuto da un ragazzo che era poi l'assistente di questa parlamentare e che la mamma era in aula, arrivava ogni tanto e vedeva il bambino. Secondo me non è una condizione naturale, non è una condizione ideale. È innaturale. La mamma che ha un bambino deve dedicarsi al bambino, punto. Se no non lo fa, facesse qualcos'altro. Ciao, perché presto. È una responsabilità, capisci? A presto, ciao. Arrivederci. Ciao. Da Lecco, Paolo. Sì, pronto? Sì. Ok, ciao Crociani. Sento un po', lei ha detto i senegalesi che servono a qualcosa, cioè a far divertire praticamente le donne italiane. Beh, ragazzi, ma ci sono delle storie pazzesche, se vuole le faccio ascoltare. È un caso, ma insomma. Che caso? Guarda che nel 2013 cosa ci raccontavano le Iene a Milano. Ci sono discoteche fatte apposta per donne, anche insomma, certo, non particolarmente piacenti, ma anche piacenti e di una certa età che insomma, in cui l'immigrazione serve davvero a qualcosa, amici miei, serve a rendere felici molte donne che non potrebbero fare altrimenti. Le Iene 2013, sentite. Facciamo quattro chiacchiere. Per prima cosa sono curiosa di sapere quali saranno mai le differenze tra un italiano e un uomo di colore. Ragazzi di colore sono un belledone, hanno un caso duro, grosse. Quando io gioco con i miei amici calcio, loro tutti sono italiani. Quando noi andiamo a fare il bagno gridano, oh oh oh, ce l'hai grosso, ce l'hai lungo. Uno che prova con te non si può mai tornare indietro più, perché loro non hanno niente. Cosa penserà delle donne italiane? Ha superato i 30 anni, i vostri uomini non lavorano più, e ancora peggio, sì, una ha figli, è divorziato, è difficile di trovare un uomo per fare una vera storia. Ma secondo lui l'età non è l'unico problema. In Italia uomini sono diventati ricchioni, tutti uomini, al lavoro ci sono tanti, e sanno che noi che siamo africani li abbiamo così grosso, duro, vogliono anche provare con noi, uomini vanno con gli uomini. Whatever you do, whatever you do. me per cercare il ragazzo. E se tu vedi, ci sono ragazzi tutti di colore, però le donne sono tutti bianchi. Stanno cercando uomini, incontrare fare sesso 2-3 volte a settimana, perché hanno bisogno di fare sesso. Però non ti rattrista in qualche modo che vengono lì a cercare... Giusto, perché la vita è così corta, bisogna approfittare così, godi la vita. Con chi eravamo qui? Paolo Lecco, dai Paolo. No, no, aspetta, chi è? Chi c'è qua? Paolo, Paolo. Sì, sì, sono io, Paolo, Paolo. Dimmi. Non hai capito niente. Comunque... In che senso? Che... No, non si capiva niente quando parlavano. Cioè, vabbè, era una roba delle iene, sì. Raccontavano le loro avventure sessuali con le donne italiane, dai. Vabbè, bene, benissimo. Che cazzo, i senegalesi vengono, tra l'altro sono simpaticissimi. E quindi servono a qualcosa, fanno divertire. Io poi non c'ho la ragazza, quindi se vogliono anche divertirsi con la ragazza degli altri non c'è problema. Mi spieghi che cazzo servono i rumeni? Io qua ho rischiato l'ennesima rissa, sono nella provincia di Lecco, ho rischiato l'ennesima rissa con un tizio che è impazzito a un certo punto in coda, in macchina, cioè una delle sue macchine con tutti i vetri neri, offuscati, che poi sa il cazzo, gli italiani non possono tenerli tutti i vetri neri, loro sono praticamente la notte quando vadono in giro, e praticamente ancora una volta, cioè a un certo punto iniziano a suonare così, poi riescono a passare, tirano giù il finestrino, iniziano a insultare a destra manca, mi sono rotti i coglioni. Ma non è che insultano, scusami Paolo, però questa roba qui non è che la fanno solamente i romeni o gli slavi in macchina. Bravo, è pieno di italiani, bravo, è pieno di italiani che sono dei matti in macchina e fanno qualsiasi cosa, amico mio. Dimmi la percentuale di persone romene in macchina quando sei in strada che ti attaccano una rissa ogni due minuti rispetto agli italiani. Lo so anch'io che gli italiani è pieno di deficienti. Dai, però dimmi la percentuale. Noi siamo 60 milioni e capita una volta ogni tanto. Ma quando mai? Con loro capita sempre, sempre. È già la terza volta nel giro di un anno che qua capita che praticamente loro alzano la cresta, incominciano a far bordello. Oh, io mi sono rotto le palle. Cioè, con gli italiani, ok, è un conto, ma se tu vieni qua, sei ospite, io non è che sono razzista e ti ho fatto qualcosa. Ma cosa vuol dire loro alzano la cresta? Con tutta la popolazione. Ma io, ma la stupidità non c'è confine proprio, proprio non c'è proprio confine. Cominciano a impazzire, loro vengono qui e alzano la testa. Ma che si, se uno è un maleducato e un prepotente, lo è a prescindere dal colore della pelle. Sì, ma la percentuale queste di vedi sono le cose che mi manderanno sempre ai matti, per cui non è che mi indigno, ma mi arrabbio proprio. Come ragioni, Parenzo? Ma cioè, no, ma perché se uno è stupido, se uno è stupido proprio. Ti sta dicendo che sei un cretino, capito? Ma sembra chiaro. Beh, non è che occorre tradurlo. Mi sembra evidente. Cioè, la stupidità non ha il colore della pelle. Da un deficiente che viene qui a dirmi che praticamente va tutto bene, non c'è problema. Ma chi ha detto che va tutto bene? Ho detto che è una stupida generalizzazione dire che quelli che sono in macchina, rumeni o cinesi o bubù, sono più maleducati degli italiani, perché soltanto uno stupido può dire una cosa simile. Sì, stai dicendo che è uno stupido? Che macchine... Sì. Fenomeno, genio, tu hai visto che macchine c'hanno loro sempre in ma giro? Loro, praticamente loro, i rumeni, fenomeno, c'hanno delle macchine che praticamente... Ma non è che tutti i rumeni hanno delle macchine enormi che fanno casino e suonano il clacson? Non enormi, sono vabbè, praticamente Paolo, quelle Paolo, tutte taroccate. Ma digli qualcosa tu, ma se sono taroccate li fermerà la polizia, gli farà la multa e li manderà a fare in culo, dai. Paolo, grazie. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. Lui mi ci ha detto ci siamo raccontati delle barzellette quando ci siamo visti e poi l'ha ringraziata per il mercato. Allora è vera questa storia delle barzellette? Che barzellette erano? Sì sì, è vero, perché io ho fatto 3 film a Palermo e gli ho parlato un pochino palermitano, segno a me, uno a uno, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha detto il Viperetta. Ecco, ma perché viene detto il Viperetta? Beh, fra qualche giorno, quando lo avremo qui, sveleremo. Speriamo, a questi microfoni, sveleremo tutti questi misteri. Beh, amici miei, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, Dio sia lodato che ce l'ha regalato questo personaggio, questo straordinario personaggio. Beh, ha fatto, è produttore cinematografico, ma ha fatto anche delle parti in un film, ha recitato, per esempio in un film con Diego Abatantuono, sentite. Ah, non sapevo questo. Sì, ma straordinario, vai su YouTube, fai Massimo Ferrero, anche in una, ha avuto una parte in un film che si chiama Ultra, quello con, te lo ricordi? Con Claudia Amendola. Con Amendola, con cioè. Ricky Tognazzi, eccetera, faceva la parte di un romanista, perché lui è molto romanista, che prende in braccio un figlio, lo porta alla stazione e gli fa dire: oh, devi di forza Roma, devi di forza Roma. Una parte fondamentale, una cosa pazzesca. Massimo direi. Ferrero giovanissimo, qui con Abatantuono, sentite. Ciao Sam. Ciao. È lui? Desiree, scuderia De Dominicis. Ma che è una femmina? No, è maschio. C'è un nome americano. Desiree. Porta bene. Desiree americano. Ma ce l'hai i soldi? Sì. Mo te do 700.000, l'altro te li do stasera. Dai, fallo correre, dai. Ti piace? Lo voglio vedere che trotta. Dai! È timido. Gli manca la pista. Non sente la lepre. Dai! Dai, cane de merda! Vengo lì e sfondo la schiena. Dai! È lui quello che dice: dai, cane di merda! Beh, vengo lì e te sfondo la schiena! Grandi livelli autoriali. È il numero uno, è il numero uno, è il numero uno. Beh, devo dire la verità, quello che mi manca alla domenica sportiva di quest'anno è un bello scontro, insomma, un confronto, un faccia a faccia tra il Viperetta, che prima o poi andrà alla domenica sportiva. Ma ci sarà forse, no? No, prima o poi ci sarà. Però manca una parte fondamentale, diciamo, per tenere testa al signor Viperetta. Sì. Non è che potete pensare che lì tengono testa al Viperetta. E ci voleva Gene Gnocchi. Caro Gene! Ah, certo. Come sei? Ciao a tutti, ciao. Beh, ciao, come stai? Bene. Ma insomma, scusa un attimo, ma te lo immagini? Ma non è incazzato, adesso affronteremo pure questa cosa. Scusa Gene, ma te lo immagini uno scontro, un testa a testa? Ma posso dirti una cosa? Io col Viperetta, cioè, ci ho fatto un film. Addirittura? Sì, cioè, no, nel senso che lui era organizzatore dei film, faceva produttore. Quando ho girato Cuori al Verde con Piccioni, con la Bui e Scarpati, era lui quello che organizzava tutte le riprese, cioè era, e lo chiamavano già il Viperetta. E come mai? Ma perché? Perché si vede che era uno che era proprio biforcuto così. Ma è sempre su di giri, cioè è sempre stato così, guarda, io me lo ricordo, infatti sì. Non vedevo l'ora di rincontrarlo, infatti spero di rincontrarlo perché è pazzesco. Chissà che farai, chissà. La domenica sportiva sicuramente non lo incontrerai, su questo no, non c'è dubbio. Quello è impossibile. A meno che ne sai, hai visto mai che c'è il ribaltone, no? Vanno talmente male che ci sarà il ribaltone, torna la Ferrari, la coppia di fatto. Però devo dire la verità, che la Rai per una volta, adesso lo dico da esterno, eccetera, ma per una volta aveva creato una coppia, no? Una coppia così che funzionava. Diciamo, possiamo dire anche che funzionava. Cioè uno vedeva la domenica sportiva. No, funzionava veramente, no, funzionava, a parte gli scherzi, io in realtà poi non sono stato assolutamente cacciato, io in realtà quando Paola ha deciso, cioè si sentiva che non avrebbe più fatto questa cosa, era giusto che, cioè era naturale che neanche io la facessi, perché effettivamente eravamo una coppia di fatto, ma c'è un risvolto in più, perché qual è? Io non ero soltanto l'opinionista della Domenica Sportiva e quindi... Ed è anche autore. Io ho fatto anche per tutti questi anni il toy boy di Paola Ferrari, quindi io avevo una duplice mansione, tenerla allegra anche nei momenti più difficili. Beh, certo. E quindi era chiaro che si fosse stabilito un rapporto che ormai andava al di là del semplice... Siccome ci ascolta sempre Gene, Paola Ferrari, ascolta sempre la Zanzara. Siccome ascolta sempre la Zanzara, Paola, digli qualcosa. L'attività di Toy Boy prosegue. Devo dire che l'ha presa bene. Io ho visto che l'ha presa bene, che ad esempio so che ha bucato le gomme della Gandolfi, ma solo della seconda macchina, non della prima. Quindi, no, io devo dire che è stata molto signorile. Molto signorile, devo dire la verità. Questa cosa dei denti rifatti, secondo sì, me. Sì, ha reagito con grande, devo dire, con ha grande. Ha reagito con grande signorilità e distacco, con grande garbo. Con distacco, distacco. Cioè, se n'è fregata di questa macchina. Sì. Cioè, questa Gandolfi, soprattutto, ha detto, vabbè, ma chi se ne frega, la lascia. Cioè, hai visto anche, invece la Gandolfi, devo dire, no, ha fatto questo saluto. No, la... Però c'è anche da dire, scusa, non so se sei d'accordo, però la Domenica Sportiva, domenica, era il moscia. Comico ce l'aveva Lotito, ragazzi. Ah, è vero, sì, sì. Lotito può essere al tuo livello. Ha avuto tutta la puntata a Lotito, perché cioè, è inarrivabile Lotito, quindi... Sì, devo dire che le volte in cui c'era Lotito e c'eri pure tu, diciamo, almeno c'era un minimo di, no, battaglia. Ma di... perché io so il latino, ho fatto il classico e quindi posso parlare in latino con lui, perché sai, quando lui parla in latino... di gente che ha fatto il classico non ce n'è tanta, quindi sai, quando cominci a dire parva sedattami, refugero, queste robe qua, ci vuole uno che gli tenga a testa, che almeno abbia una conoscenza al minimo del greco e del latino, che abbia fatto qualcosa, no, con lui è un disastro. Ma com'è che l'ha presa così bene la Ferra? Io pensavo che fosse più arrabbiata. Una che scrive non usare internet, dormi bene, domani mattina guardati allo specchio se hai il coraggio, alla Gandolfi, la nuova conduttrice, non aggiungo altro, non permetterti mai di pronunciare il mio nome, dimentica, complimenti per i denti rifatti, insomma. L'ha presa benissimo. È una signorilità innata, direi, ecco, direi che è nel DNA. Però devo dire che Paola, cioè, secondo me, insomma, con tutto il secondo me aveva anche un filo di ragione, l'aveva, perché comunque insomma adesso ma che ha detto, che ha fatto no, nel senso che la gestione di Paola è sempre stata in crescendo, comunque lei li ascolti, li ha fatti, cioè, ok, però è stata lei che voleva andare via, ha detto più volte che voleva andare via, questo sì, questo all'inizio, ma poi vedendo che la cosa, cioè, puoi anche pensare che uno possa cambiare idea, voglio dire, alla fine le cose vanno bene, perché smontare una cosa che poi alla fine va bene, no, per e ha reagito tutto, male però. Secondo te, sto parlando seriamente, ha reagito male alla cosa della Gandolfi o no? No, beh, secondo me no, secondo me ha reagito con grande signorilità e grande. Senti una cosa, ma allora, vabbè, alla fine tu che cosa rimprovererai alla fine di non averti mai chiamato? Adesso lasciamo perdere i personaggi, no, guarda, che non li conosci. Io posso dire una cosa, io avendo capito che non l'avrei fatta, perché appunto Paola non l'avrebbe più fatta, io non mi aspettavo una telefonata di commiato da parte di questo Losa, che è il curatore, sì. Perché dopo 3 anni fatti così insieme, comunque andati bene, uno si aspetta, l'ha fatta a Collovati, voglio dire, capisco. Fai la telefonata che Collovati sia una pietra miliare, è campione del mondo, fondata, però mi aspettavo che la facesse anche a me. Però viste poi come è andato l'ultimo anno, ho capito che insomma non l'avrebbe fatta, e questo un po' sinceramente mi è dispiaciuto, ma niente di più di questo. Cioè, la cosa importante da dire è questa, per adesso fuori dagli scherzi eccetera, che e questo l'ho apprezzato molto in questa intervista che ha fatto quella sera. Gianni Gnocchi non è che si è messa a fare la vittima, le purate. Ma io non la sono, scusa, no, io non ognuno la sono, ha il diritto di scegliere chi fa i programmi. Ognuno, cioè, io ho sempre fatto certo. Quello che mi, ma io non sono una vittima, ma ci mancherebbe. E che vai adesso, che farai? Le vittime sono queste. No, se mi avessero cacciato ignobilmente durante la trasmissione per delle cose magari dette così, magari avrei potuto anche fare ma io non sono mai stato cacciato, assolutamente mai, proprio. Senti Lorenzo, ma che dici? Secondo me adesso voglio offrire qualcosa a Gene qua a Zanzara. Adesso vediamo, stiamo lavorando. Meraviglioso. Meraviglioso. Ogni giorno un appuntamento fisso, voglio un appuntamento fisso. Voglio un appuntamento fisso ogni giorno. Poi lui è anche dottore in legge, oltre ad aver fatto il liceo classico. Quindi ma che ci serve... c'entra che dottore? No, affidare a lui l'ufficio. Che cosa c'entra? Chi vogliamo? Non c'è. No, ufficio legale della Zanzara. Affidare l'ufficio legale della Zanzara al signor Gnocchi, che essendo dottore in legge, siccome troverà i cavilli giusti. Ma sono cazzi suoi, no? Ma ci sono altre idee in pentola, altre cose che bollono. Vabbè, comunque, la cosa fondamentale da dire alla Paola Ferrari, che ci sta ascoltando, qual è? Che la tua attività di Toy Boy non si chiude qui. Questo dice. No, esatto, bravo. Ecco questo qui. Dico, Paola, con tutto quello che abbiamo trascorso, perché tu devi sapere che dopo la Domenica Sportiva, all'1 di notte, sì, io la portavo a Gardaland. Cioè, ma Gardaland è quella del tuo letto, cioè noi la chiamavamo la nostra piccola Gardaland. Ah, la vostra piccola Gardaland, sì. Ma com'è? Piccola Gardaland, e quindi le facevo provare emozioni che lei, insomma, in fin dei conti erano ecco, benissimo. Dunque, l'appello che vuoi fare alla Ferrari è: non finisce qui. non finisce la nostra cioè il tuo Toy Boy c'è sempre. Ma secondo te se ne andrà dalla Rai? Adesso parlando seriamente, andrà via dalla Rai la Ferrari secondo te? Io non credo, è troppo legata e anche ha troppo affetto per la Rai, poi insomma c'è nato, c'è lo stipendio, cioè vabbè che non ha bisogno assolutamente, poi c'ha il suo gruppo elettrogeno e quindi cioè lì è il problema anche di gruppi elettrogeni facciamo un messaggio, diamo un messaggio alla Gandolfi. No, scusa, posso dire una cosa? Non so se volevo soltanto dire, voi non so se sapete che il Pisa è stato escluso dalla Serie B. Sì, è vero. Carenza di illuminazione all'impianto. Che è una cosa incredibile, ma mettila l'illuminazione, metti un mese di tempo e metti l'illuminazione. Metti un mese Paola Ferrari, per le notturne tu sei a posto, scusa. Un messaggio finale alla Gandolfi, guarda, no, devi essere un po' cattivo. No, la Gandolfi è una persona, guarda, io ha fatto anche qualche puntata, è una persona... una bravissima persona e quindi le auguro sinceramente ogni bene, guarda, veramente. Veramente. Non ha sbagliato nulla con la Ferrari, non è che è stata... No. No, ma no, lei è stata così, è stata anche lei di grande signorilità. Cosa gli ha detto? gli ha detto che aveva detto che se ne andava. Piccole cose. Vabbè, roba tra donne, dai, roba tra donne. Vabbè, Gianni Gnocchi, ti voglio qua, fra poco, ciao. Fra qualche settimana. Certo, ragazzi, ti abbraccio, ecco. Ciao. Ciao. Un abbraccio, ciao. Pasquale, provincia di Napoli. Pasquale, provincia di Napoli. Vai, Pasquale. Buonasera, Valenzio. Parenzo. Cruciano, scusami. Tutto bene? Sì. Mi accodo al discorso del signore di prima riguarda il fatto del lavoro, della donna che lavora. Allora ti accodi cose. In che senso? Ti accodi in che senso? Ma lo do ragione, perché guardate che lui è un matto, tutti i matti sono stupidi, la gente che parla. Cioè, capito, secondo lei ha ragione Martinelli quando dice che la donna deve stare a casa con i figli e non lavorare? Sì, ma quante donne lei conosce che vanno a lavorare, che prendono 800 euro al mese e hanno la babysitter che ne pagano 600 euro al mese? Ma quelle sono cazzi loro, quello che vogliono fare. Magari uno lavora perché se non lavora si rompe i coglioni, si annoia. Abbia pazienza, Pasquale. Ma che dici, Pasquale? Cosa dici? Non le do del tu. Cosa dici, Pasquale? Cosa dici? Ma siete tutti matti. No, meno male. Ma quale matti? Scusa, ma non è che una che è un'azienda, una donna, dice vabbè, guadagna dei soldi, vabbè, il marito se ne sta a casa e lei porta l'azienda avanti, il marito si sta attento ai figli. Abbassa la radio intanto, abbiamo capito Pasquale. Andiamo a Alfonso Prato. Però mi devi far parlare. Chi è questa qua? Alessandra, chi era? Avete aperto quella sbagliata? Alessandra, chi era? Alfonso, chi è? Mi devi far parlare. Chi ha detto mi devi far parlare? Chi lo diceva mi devi far parlare? Chi lo diceva? Pronto? Alfonso, vai Alfonso. Alfonso, ma chi era che parlava? Alfonso, un'amica tua? Che ne so, tua moglie, chi era? Tua moglie, chi era? Ma che moglie, sta zitta un coso mia moglie. Perché sta zitta? Perché sta mestando la minestra. Ah, te la moglie le scalda la minestra, la tratti così, Cioè, la deve stare a posto a fare la minestra, a fare da mangiare. Ma la zuppa. E si apre bocca a schiaffi. La zuppa di cipolle, magari. Quel discorso lo state facendo voi. Io la faccio fare a lei la minestra, perché se la faccio io dice non è buona. E allora basta, falla te. Vabbè, allora che volevi dire? Che volevi dire? Volevo dire alcune cose. No, i figli. Che siano figli nati da un matrimonio, da una convivenza, oppure adottivi, sono una scelta di responsabilità. Ha perfettamente ragione quella persona di prima, non so chi sia. Martinelli, 5 Stelle, sì, comunque. Perfetto, 5 Stelle, 12, non vuol dire. Quello che è un fatto di responsabilità deve essere rispettato. Ma anche per un'altra motivazione, i figli hanno diritto ad avere determinate cose. Insomma, io la vedo in questo modo come problematica. I figli chiedono queste cose. Amici chiedono... miei, ma esiste? Ma perché dovete parlare di cose assurde? State dicendo delle follie. Certo. Delle... La realtà è che la gente si separa, perché altrimenti va a finire Cruciani, peggio. Ci saranno Cruciani, pure dei. Ma che è finire peggio? Ma che cacchio dici? Cruciani e Parenzo. Non è giusto, è per un prurito che sia cioè, un prurito. Per una scopata, un dici tu, per una scopata. Che non decidi tu, guarda, ma mangiati la minestrina. Per un prurito, mangiati la minestrina alla cipolla e la rompere le balle, scusa, ma che discorsi sono? Anche coglioni. Una situazione di quel genere. Vai, ho capito. Alessandra da Roma, sentiamo una donna. Vai, Alessandra, voglio sentire una donna. Ecco, vai. A me era che mi dovevi far parlare, Cruciani, ero io. E che ne so io, amica mia, dimmi. Allora, ascolta un attimo, io sono una donna e questo volevo dire, che è assolutamente vero che una donna che non vuole lavorare, ma che deve lavorare perché deve portare casse di soldi a casa, deve poter rimanere a casa, perché, fammi finire, ci stanno donne che vogliono fare quelle in carriera e sono contente così, loro escono alle 7, tornano alle 7, con chi lasciano i bambini sono affari loro, hanno i mezzi, lo possono fare. Vabbè, ma quello lasciamo perdere queste cose. Ascoltami, se io torno a casa la sera alle 7, va bene, e non vorrei, cioè non so voglia di andare a lavorare, perché non me ne frega un allora? Di andare a lavorare. Io devo poter rimanere con i miei. E i soldi chi te li dà? E i soldi chi te li dà? Chi te li deve dare? Lo Stato? Lo Stato? Ci devono essere, ci stanno in altri stati. Ma dai, su, ma che tutti i paesi del nord. Vabbè, Alessandra, devo chiudere. Vi lascio con una segnalazione dell'amico non leggerlo, che mi segnala che la deputata o senatrice, non mi ricordo, dei 5 Stelle, Monia Benini, la signora Monia Benini, scrive: Goldman Sachs e JP Morgan finanziano i matrimoni gay. Oh. Ora capisco perché tutti i riflettori sono puntati sull'argomento. Capito? Capito? Avete capito? Abbiamo capito tutti. Siccome JP Morgan è mi ubriaco. Dopo questo io mi ubriaco, guarda, mi ubriaco. Vabbè, vai a fare in culo, va. Ci sentiamo domani, ciao. È come un genitore che ha paura che la figlia, andando fuori, trovi qualche malintenzionato come Sassi o come me e la tiene a casa e gliela scopano a casa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Imbecilli! Radio 24. La passione si sente.